che c'è, di bala. Ok, a cosa qua? Beh, niente, senti sotto, alternata, niente. Ci fa vedi, no? Lascia la portata, vediamo. Un rumorino si sente sotto, ma niente di che. Cos'è? Vabbè, l'alimentatore è quello, quello lì. E allora c'è l'alimentatore. Capo. No, perché come per fare quello spezzone per Vinco, ho dovuto smontare un altro cavetto, no? E mi sto recuperando quello del cable, non mi sto recuperando, dell'MC60, capito? Me l'ho recuperato adesso. Però ho finito di saldare, adesso lo chiudo. Ehi, che cavetti, no? Se ce l'hai originale, no? Non lo toccare, preferibile farne uno, capito? Quelli sono saldati, sono fatti a macchina e possono sempre servire. Va bene, salda, io sono qua, vai, sto guardando qualcosa, sto guardando le caratteristiche dell'RM Italy, perché lo volevo attaccare ma non sapevo quanti watt dava, cioè quanti watt d'ingresso dovevo darle, quindi al K non lo posso attaccare, cioè lo posso attaccare ma devo usarlo con 10-15 watt, massimo 20. Questo è il cavo originale del MC60, è il cavo originale, solo che io, allora, tanto tempo, un paio d'anni fa, cosa mi era successo? Che non usciva questo cavo, era interrotto, per me era interrotto, invece c'era un filo che era attaccato dentro, e io cosa ho fatto? Preso e me ne ho fatto arrivare un altro, me ne ho fatto arrivare nuovo, e gli ho messo un nuovo e questo ce l'avevo nel cassetto, adesso me lo sto recuperando. Esatto, infatti bisogna sempre tenere di scorta, così, perché già l'MC60 è difettoso per se stesso, se non per carretto non ce l'hai di scorta rimani a piedi, perché qua se non ce l'hai. Va bene, hai finito di saldare o stai ancora saldando? No, ho finito di saldarlo, infatti lo sto provando, è tutto aperto, adesso me ne devo chiudere tutti i connettori, tutti e due, perché li ho copiati, no? L'uno dall'altro per andare più sicuro. Due celle. Va bene, allora chiudi, dai, già sono qua. E io? Ok. E allora? Sto andando al computer, cosa c'è di buono? E basta. Non so se prendere qualcosa, lascia perdere, non mi interessa niente. Lascia lui giorno, ma che tu ti tengo. Ehi, solleva il volume, già ti sento io, sì. Cosa vuoi da sentino? Pensi che non arrivi qua a Sassari? Sentiamo 7, sì, qua, siamo a casa mia. Franco di Sorso, Santiago 7 oggi, ma no, c'ho davanti a Trentino, ovvero Trentino, sì, per cui ci sono, avanti fra. Ehi, ciao Eugenio, mi hai ascoltato, arrivi bene qua arrivi 8, modulati 9, ehi capo, dai, arrivi benissimo, non c'è problema, qui c'hai la radio buona, diciamo, qualcosina da aggiustare c'è, cioè, è tipo che sei cupo, e chiappa, va bene, avanti clappa. Un minuto. Chiappa. Avanti, Girella, Eugì. Va bene, fediesi. Ah, e allora, va bene. Va bene. Sì, io sono in pensione. Ho detto che sono in pensione. Sono andato giugno del mese dell'anno scorso. Ehi, che ha fatto? Capito? Mi gioco pure il traccio, vai, che è il caso. Ehi, oggi siamo qua. Ciao, oggi sentiamo dopo, dai. Ehi, che ha fatto? È chiuso. Sto guardando le punte anche del saldatore, a vedere se avevo comprato un saldatore da base e mi hanno dato solo una punta, e ora mi devo comprare i punti. Sì, comprare punti, allora comprare, vuol dire che aspetta che si può guardare. avuto là? Con 430. Buono, buono. Già si fa sentire. La moglie si fa sentire. Meglio del 440, tranquillo. Come dice il trasmettitore, che è più vecchietto, bisogna farlo andare con le pinze a questo. Io ho stato riparato un bel po' di volte, però non l'ho mai dato perché mi piace troppo spingere parecchio. C'ho 30 watt modulati, sono 70, fatto il conto. Va bene, la modulazione è ottima perché già lo so che è ottima. Dai, noi ci siamo, fino a quando funzionano le teniamo, quando non funzionano le mettiamo come gli altri dentro l'armadio. E allora, anche se non me ne accorgo quando cambio il radio, cazzo, pare che sempre avete sul radio. Vabbè, 430 c'è il suo MC60, 440 c'è il suo MC60, il 780 c'è il suo MC60, quindi non, io non faccio altro che commutare sulla T230 che c'ha tre, fa da commutatore d'antenna, tre vie, almeno sai che è una cosa seria, quando chiudi, chiudi, poi fa da accordatore, rosmetro e wattmetro, già lo conosci. Quindi io ci ho collegato tutto lì, non aggiungo da mezzare bene, tutto collegato lì. Va bene, va bene. E su, stavo dicendo l'altro giorno proprio a Tina, cazzo, su sei microfoni che ho provato, che mi disiattato uno che la modulazione non era liscia, sempre quella, la madonna che. E non cambi, non cambi mai. Tu a volte metti qualche un barattino, secondo me il microfono buono sei preciso. Hai visto l'altro giorno col TN più 3 il Cobra? Uguale a chi sta modulazione, non cambia niente. Talmente la forza vocale è quella, però basta, mi sono stufato di stare attaccando, anche perché è fratto, ho detto non c'ho l'altra base, ho una base solo, capito? Quindi non c'è spazio per mettere i baracchini, provarli, divertirmi così, come state facendo voi, perché io non c'ho spazio, non c'ho più spazio, ho tolto l'altra base, l'ho già portata via campagna, ho già preparato. Praticamente sto iniziando a impostare la situazione, capito? E poi definitivamente porterò anche questa base. Va bene, va bene. Massimiliano, ci sei, Massimiliano, capo di Bugnetta. Caffè, due ore, poi dice a me, ti mando i messaggi, non li leggi. Allora, a chi gli ho mandato questo? Fatti il conto. Me l'ho mandato alle 17.12. Ancora non l'ha letto. Avvicinamente. Sarà drumito, è drumito, vai. Questa, va bene, allora scommetti che se prendi il Linco, con le 2060 vai sempre a fare questo modulo a zio. Il Linco lo faccio rullare forte io, ma forte barone. Forte volte. Una radio che mi piaceva poi. Poverino, ha girato Giampaolo, manco voluto se ne è. Vabbè, infatti, passato in mano a quelche ballacche, di tutto butto, usciva così forte quella radio, che insomma forte mi fa, forte, bene, anche perché era modificata da un professionista, capito, non era adottata da Cipito, è stata fatta una modifica all'interno, per spingere con le MC60 che era una cosa favolosa, 30 watt c'aveva quella radio, 30 watt, tutta in blu era, tutta in blu, bellissima, watt regolabili, c'era un potenziometro piccolino dietro, manco si vedeva, a fianco al PL, ma era una cosa spettacolare, veramente un bellissimo lavoro, l'ha fatto Massimiliano Archimede. Infatti va un nome di fatto, è da sempre sperimentale, ma quando si metteva a fare le modifiche era una cosa eccezionale. Vabbè, se c'erano stati questa gente a fare queste cose, credo non ce l'abbiamo fatta, guarda chi ce l'abbiamo modificata. Certo che se c'aveva la modifica così usciva bene. Va fatto da un professionista perché il suo lavoro. Adesso purtroppo non ne fa più, non va più al laboratorio, ma io l'ho visto da poco, ma perché no, dice che sono impegnati. Tu figurati che a me mi si è interrotto il relè di commutazione di banda del 440 e non me ne ha voluto fare, perché non mi fa più, non c'è tempo. E quindi me lo sono fatto fare da un altro, capito? Ha giubilato 30 euro, me lo sono fatto sostituire. Però se avessi avuto tempo anche a casa mi avrei preso baracchini, poi fai, a 20 euro l'uno, a 20 euro l'uno, a 10 non avevo fatto. Vabbè, non ho fatto. All'interno aveva messo una resistenza, ma tu la primi non vedevi niente, ma aveva una battenza serraria. C'era 30 watt di portante muta, circa 50 modulati, a livello del gappa. Pure MC60 volevi sentire quella radio, ma poi era bella, nuova, bella, era tutta blu era, smittere, tutto il frontalino si illuminava di blu, non so come cacchio ha fatto, ma era una cosa spettacolare. Sicuramente gli aveva cambiato tutta la lampadina dentro, l'illuminazione gli ha cambiato, e non è facile né cambiarli a Linco. Se tu lo fai è pericoloso. No, tu hai smontato e hai detto, ma questo cos'è? Radio pezzi di cambio, pezzi di cambio. Questo è il mio pregio, quando è finito te lo faccio vedere. Come te l'ha finito, l'ha provato, ha detto, ma la tenendo quella radio? Sì che la sto vendendo. E me l'aveva venduta a me dentro alla scatola, con microfono originale, cavetto originale. E poi mi ha dato il cavetto, non le mie 60, perché ce l'avevo io. Mi ha dato il cavetto fatto da lui, ma fatto, però. No, fatto a imbrecio, no? Connettori belli, nuovi, bellissimo. Sempre spiralato, delle mie 60 originale. Lui si è fatto mandare il cavetto, come hai detto tu, e ha fatto da una parte a 5 e dall'altra parte ha lasciato originale. Ma Luigi mi dica la radio che 150 euro me l'avevo venduta e non me ne ero pentito di averla comprata. Ehi capo, adesso ti faccio vedere quello che ho fatto io. E non so, pratico. E passione ci vuole, cioè anche io non sono pratico, ma non c'ho più pazienza perché non ci vedo, capito? Quando ci vedevo le cose me le facevo io, adesso non ci vedo più, fra gli occhiali da vicino non ti ingrandiscono, non ne ho perché sono per me troppo, anche adesso ho gli occhiali però sono leggeri, quindi devo usare occhiali che non sono i miei. E poi mi fanno male gli occhi, mi bruciano gli occhi e no, non me ne ha fatti più nulla. Allora me le faccio fare le cose, fra. Capito? No, non mi interessa più. Si abbiglia le luci, le radio, che l'ha inventato il burro. No, ma era diretto, il mio M60 con Lincoln era diretto, fra. Era una favola, come il tuo, diretto, senza cavetti di adattati. Tolto quello del 60 originale e messo l'altro originale col connettore direttamente per il presidente. Una favola era. Massimiliano Bulldozer. Guarda che ti è arrivato, te l'ho sentito. È smontato il cavetto del presidente Linco, del microfono del presidente Linco, il cavetto. E ormai sono, ma due colori sono uguali, ovvero più uno color oro e l'altro color argento. Allora, quello che va attaccato a... cosa che va attaccato al presidente a 5 punte, quello è l'originale suo, non ho neanche toccato quello lì. Io ho messo solo l'altro a 8 punti, a 8 punte, quello la femmina, il maschio. È quello che va attaccato al piantone alla base dell'MC60, là. Esatto, quello che va, uno va là. Al cavo però dell'MC60, al cavo l'ho attaccato, quello lì. Quello l'ho preso, quello oggetto l'ho preso, ma ho smontato il cavetto dell'ICOM, dello spettrone che avevo per l'ICOM, ho smontato. Infatti me ne sta arrivando un altro nuovo, me ne sta arrivando. Tanto costa 14 euro, non costa molto. Mi serviva quel jack, mi serviva, e allora l'ho smontato quello lì. E l'ho fatto come quando te lo mandano nuovo. No, aspetta. Allora, il cavetto che tu hai fatto, il microfono non lo devi toccare, il microfono c'ha il suo connettore e va attaccato, no? C'è il pezzettino che è attaccato al piantone, ok? Il tuo cavetto è collegato dalla base dell'MC60 alla radio, spero, sì? No, lì c'è il cavetto suo, alla base. Poi, adesso io ho dall'MC60, sto modulando sul cable, sto modulando col cavetto che parte dal piantone, dall'MC60 alla radio. Oh. Io attacco adesso dalla radio e lo attacco qua, quello dell'MC60, e poi l'altro al presidente. Ferma un attimo, perché tu non stai pompando, perché mi sembra che hai fatto un errore. Allora, l'MC60 c'ha una base, che è quella che appoggia, dove lì dentro c'è il circuito di preamplificazione che puoi disinserire e inserire. Il cavetto di preamplificazione parte, quindi che va a qualsiasi radio, o al C80 o al President Lincoln, deve partire dalla base dell'MC60 alla radio. Se tu attacchi il tuo cavetto al microfono dell'MC60, tu stai uscendo senza preamplificazione. Come senza preamplificazione? C'è l'amplificazione. Dove? Sul C80? Sul C80 perché c'è il processore inserito. Tu disinserisci il processore e esci col microfono normale. Stai facendo un errore, Franco. Il variazione a me non è che pompa come pompava il mio era uguale, preciso, identico a questo, capito? Nessuno sapeva che io stavo uscendo o col Kimwood o con Lincoln, va bene? Il cavetto che tu hai fatto, devi staccare la ghiera dal piantone, non toccare il microfono deve rimanere attaccato. Se tu guardi l'MC60 come è fatto, partiamo da sopra, microfono, ok? Microfono, c'è la sua ghiera, no? Collegata al microfono, e il suo cavettino che va all'interno della base dell'MC60, giusto? Poi che cosa c'è a fianco? Sempre nel piantone, quindi nella base, parliamo di base dell'MC60, quella che appoggia al tavolo, c'è un'altra ghiera, ok? Che da lì parte il cavo spiralato e va dove va? Alla radio. Ok? Ecco, io ho quel cavo spirellato che parte dal microfono, a quel cavo gli attacco lo spettone, io mi faccio solo uno spettone. No, cazzo, Fra, non lo devi attaccare al microfono, lo spettone tuo, maschio e femmina, ok, va attaccato alla base del microfono, perché altrimenti tu non stai amplificando il microfono. A me così me l'ha dato e così l'ho copiato, capito? Solo così esce. E se lo fai in un'altra maniera, mica è facile a farlo con quello di 8 pin. Ma scusa un attimo, no, perché non lo sto capendo io. Allora, tu mi mandi una foto. Dove ci sono? Vedo che ci sono un connettore a 5 originale e quello va attaccato al baracchino. Ci sei? Tu devi staccare lo spiralato originale dell'MC60 che va dalla base dell'MC60, non microfono, uno è il microfono MC60, l'altro è la base dell'MC60. Devi staccare la ghiera della base dell'MC60. Ci sei? Inserire il microfono a 8 pin nella base dell'MC60 senza toccare l'altro del microfono e andare direttamente col 5 punte alla radio. Allora stai usando l'MC60 in posizione amplificata. Se tu inverti e vai a collegarti sul microfono, lo stai usando normale. Ah, boh. No, è così, non ci riesco a farlo, come stai dicendo tu. Tu ce l'hai già fatto. Quello che mi hai mandato è già fatto. Uno è a otto, fa. Sì, uno è a otto. E ci vuole che il cavetto lì attaccato. Nell'MC60. Ma come non si può per niente? Nell'MC60 ci va il cavetto attaccato. Nell'MC60. Quindi hai fatto un altro, questo cavetto che hai fatto, a cosa ti serve? Questo che hai mandato a me? Io vedo una cosa già pronta. Di quale altro cavetto stai parlando? Allora, dalla ghiera dell'MC60, da dietro, dell'MC60, dalla ghiera, c'è il cavetto spirellato. Oh, quello c'è. Io attacco questo cavetto che tu stai vedendo, lo attacco al cavetto spirellato che parte dal microfono. Non serve a niente tutto questo lavoro. Io ti ho detto che a me Massimiliano mi ha dato il cavetto fatto, cavetto 8 pin, 5 pin, o sì che siano. Io che cosa ho fatto? Ho staccato il cavetto spiralato dell'MC60 originale, che è quello che è attaccato al piantone, alla base, attento, base, alla base, non al microfono. L'MC60 c'ha il microfono, dove c'è la sede, no, che tu lo sfidi, che puoi fare anche da cantante, è la base. Io ho staccato la base, no, il cavetto dalla base, e ci ho inserito, sempre nella base, l'attacco 8 pin uguale, l'altro che ha 8 lo stesso, è diventato a 5, l'ho attaccato alla radio. Tu cos'hai fatto? E io cosa ho fatto? Quello a 5 alla radio. E l'altro al microfono, va al microfono. Però c'è anche... Cazzo, non si può prendere uno. Allora, io ho qua il cavo originale del microfono. Quando prendi il tuo microfono, l'MC60, ecco il cavo spirellato. Ok, ci sei? Ok, e fino a qua ci siamo. Dove l'hai attaccato? Oh, a quella ghiera lucida che tu stai vedendo. A 8 volti. Se c'hai un cavetto in più, a cosa serve? Non serve a niente. Il cavetto di modifica, che cosa è? Cos'è? Il cavetto di modifica è tutto il cavetto spiralato, tutto, siccome sono due connettori uguali a 8, un connettore va tolto e messo a 5, ok, anziché a 8. Uno lo lasci attaccato alla base dell'MC60 e l'altro lo lasci attaccato al presidente. Perché due cavetti? Questi due innesti a cosa servono? Allora non l'hai fatto giusto tu il cavetto spiralato? È giusto, cioè funziona, vuol dire che è giusto. Ma c'è un cavetto in più, c'è un cavetto in più. Mi devi far vedere tu, parlando, mi devi fare un video di chi hai fatto, perché mi sembra c'è qualche errore. Io il mio non era così. Il mio era il suo cavetto spiralato originale, un 8 ma 5, ho finito. Ok, come tu prendi l'MC60 e lo attacchi al 680? Io staccavo dal 440, non so se era 440, comunque dal K, sfilavo la ghiera dal K e l'attaccavo al coso, senza altri adattatori. No. Beh, me l'ha mandato così, era, perché quello del Tino è uguale a quello che ho fatto io, uguale identico. Anche il Tino deve avere il cavo spirellato che parte dal microfono e poi a quel cavo lì deve attaccarli l'altro per andare alla... E sono due cavi. Ma questo voi l'avete fatto, che non serve a niente. Io ti ripeto, avevo un cavo solo, unico. MC60 diretto al President, non ne avevo altri adattatori, mi capisci fra quello che voglio dire? Non capisco perché fate due innesti, non serve a niente. E lì c'è qualche errore, perché non sta amplificando come deve amplificare, va bene, si sente lo stacco del 60, ma deve amplificare ancora di più. Deve amplificare, perché se tu adesso a me mi attacchi, io ti dimostro, che come ti dico io, se tu attacchi il President, ok, e vai a disinserire sotto, posizione in, posizione out, non cambia assolutamente niente. Vuol valere che è così? Capo, in effetti allora ci voleva qua quello auto femmina per attaccare al microfono. Bravo, bravo, vedi che ci sei arrivato. Un maschio e una femmina. Avvisi? Cavetto originale da collegare diretto alla base. Tu sei collegato sul piantone, non serve a niente. Te lo dimostro quando vuoi, se tu attacchi il presidente io ti dico, disinserisci parlandomi, con il microfono in mano, disinserisci, come io faccio adesso, no? Così, quindi adesso sto parlando, posizione in amplificazione, vedi che si sente? Posizione senza amplificazione, ok? Se tu vai a fare questo passaggio, a te non ti cambia da così, ma sì, cazzo, giù verso il dastino, quindi è... Da così, assolutamente, non ti cambia, sono convintissimo al 100%. Sì, che cambia, sì, l'abbiamo già fatta quella prova, aspetta che te lo faccio vedere. Ma cambia poco, c'è qualcosa che non mi conviene, se tu ti sei collegato con un altro connettore c'è qualcosa, il mio era diretto, tutti aveva la stessa modulazione del Kenwood. Aspetta un attimino, fammi mettere l'antenna, se no tu non mi ascolti con lo zippo. No, ma attaccami l'antenna e fammi, voglio sentire questo passaggio, perché mi arriva un video di questo gavetto, perché quello che mi hai mandato per me è già pronto, c'è un errore di cosa, qui c'è un errore, capito? Ecco, vedi che c'è l'errore. Tu hai messo la femmina, ci vuole il maschio lì, dove va ad avvitare al piantone, alla base dell'MC60. E tu ha fatto di me che ho mentito di dico io. Allora di ringhi di tu di chi sono presidente Lincoln. Ok. Ci sei? Sì, e questa è la modulazione normale. Questa è già la modulazione normale. Abbassa. Ok, aspetta. Ok, adesso è... come l'ho chiuso? Quello... Hai visto? Rimettilo alto. Ok. Adesso l'ho rimesso alto, l'ho rimesso. E c'è l'amplificazione? Sì. C'è qualcosa che spinge un po' di più fra... Però se tu quel cavetto lo fai diretto, 8-5, è diverso. Non lo so. No, non ci voleva un altro adattatore in mezzo, non ci voleva. Capito? L'errore che avete fatto tutti e due è non mettere il connettore già a 8 per la base dell'MC60 e l'altro a 5, basta, non c'è altro da fare, c'è da cambiare un connettore, non c'è da fare altre ispezioni, capito? Come ce l'avevo io. Sì. In effetti, ma siccome a me me l'ha mandato lui, me l'ha dato. E io ho fatto altro che copiare quello lì, perché io fare altre cose, non mi fido, perché se sbagli paghi qua. No, non paghi niente, perché tu non usi gli 8 volts, non ti servono gli 8 volts. Nel cavetto che andrai a fare io non ce li avevo gli 8 volts. Ok, gli 8 volts li elimini, lo tagli proprio il filo di 8 volts. Ok, perché non ti serve, intanto l'MC60 con il President non ce li ha gli 8 volts, quindi vai a toglierlo e non ti succede niente, perché tu stai lavorando con le batterie, quindi non succede assolutamente niente. Perché il cavetto che io avevo, mi ricordo, che non c'erano gli 8 volts. Ok, c'era il down e up, però non c'erano gli 8 volts, io andavo con l'alimentazione delle mie 60 a batterie, non andavo con l'alimentazione diretta della radio, proprio per evitare casini, capito? Però il cavetto, ti ripeto, era a 8 sulla base, me lo ricordo perfettamente, era un cavetto a 8 e un cavetto a 5 o a 6 che sia, basta, non c'erano altri adattatori in mezzo, capito? No, era diretto, infatti ero convinto che voi avevate fatto un cavetto diretto, invece lui ha fatto l'adattatore per il cavetto dell'MC60. Esatto. In effetti dove aggancio il connettore che hai visto, quello lucido, quello lì, due piedini, non c'è niente in due piedini. Perché ci manca il coso di alimentazione ed un altro manca. In effetti io devo mettergli quello a 8 punte, però sempre saltando con i due piedini. Esatto, tanto non ti serve a niente. Cosa succede? Che non ti funziona il down e up, o se te li vuoi far funzionare, li fai funzionare, perché il mio funzionava, c'è un filo solo, mi pare, un filo solo, che è quello degli 8 volts, che l'MC60 prende dal connettore diretto della radio, basta. Quando tu elimini quello, fai lo stesso connettore che l'MC60 riceve senza l'alimentazione del circuito di preamplificazione. Il circuito di preamplificazione te lo alimenti dalle batterie, basta. Una cosa bellissima, fatta bene. Si cavetti, uno che entra, uno che esce, cosa serve? A nulla. Lo so, purtroppo io, a me me l'hanno dato così, me l'ha dato, e anche a lui l'hanno dato così, non è che il fatto che, mica, se ne sentivo lui che fa di più, se no io non ci sarei mai riuscito io a farlo. Ma chi te l'ha detto? Ma perché ti devi sottovalutare? Tu ti hai fatto quello, non cambia niente, fra, non cambia assolutamente niente. Devi avere un gavetto spiralato Kenwood, Icom, Yaesu, quello che sia, sempre spiralato, che parta dal piantone, dalla base dell'MC60. Ok, uno lo lasci stare uguale, va bene. L'altro, te lo fai a 6 punte, andando a eliminare un filo che sono gli 8 volts. Basta. E qual è il tuo problema? Te l'hai fatto. Cosa devi dire? A chi non vede se ha fatti tu? Perché io ho copiato solo. In effetti c'hai ragione tu, ma io sto usando il cavetto spirellato del microfono del Presidente Linco a 5 punte. Sto usando, adesso. Quello a 5 punte è del preside attaccato alla radio, ma l'altro tu ce l'hai a 8, se no come fai a far funzionare l'MC60? No, a 5 lo stesso, perché ti ho detto che 2 li ho eliminati. Hai fatto una strozzata, perché se tu lasciavi già quello 8 e andavi a collegarti nella base del 60, eliminando i fili che dovevi eliminare, seguendo anche quello che ti ha dato Dino per copiare, e andavi a metterti il connettore a 5 punte, ti eliminavi l'alimentazione, gli 8 volts, ti eliminavi anche il down e up che non te ne affutti nulla, tu avevi il gavetto diretto come ci avevo io. Vai e fallo. Non lo so. Mi bello di sì, ma continuo a non capire come hai fatto tu a mettere il cavetto, un cavetto, tu ce l'hai per forza 8 attaccato al 60, cazzo. Mica ce l'ho 8 attaccato al 60, quello che è attaccato al 60 è tutto a 8, sia da una parte, da un capo e all'altra, capito? Però lo stesso che ho fatto non è a 8. Hai fatto male, perché non l'hai lasciato com'era? Uno lo lascia a 8 nella base, ok, e basta, finito. L'altro, quello che va al Kenwood, per capirci, lo tagliavi, e lo conservavi, e lo facevi a 5, finito il discorso. Non hai capito, io l'ho copiato solo, copiato, sai cosa vuol dire copiare? E l'ho copiato uguale identico a quello là, con lo stesso cavetto, uguale identico. Ah, mamma mia, garaga, ho capito che hai copiato, lo continuavi a copiare. Qual è il problema? Due ne hai fatto di connettore, uno e dove ti va? Uno ce l'avevi già, la base del 60. L'altro, quello 8, uguale all'altro, lo tagliavi, lo mettevi a 5, copiando le connessioni che avevi, che ti ha dato Tino. Finito i discorsi. Sei uguale a questo che ho fatto io, quello di Tino. Ti avrei sbagliato tutte e due, perché io l'avrei fatto diversamente, come aveva fatto Massimiliano. Ok, uno lo lascio a 8, attaccato alla base delle M60, l'altro glielo taglio e lo faccio a 5, e mi elimino gli 8 volts e il down e up, non me ne affrutti nulla. Ok, basta, boh, finito. Che provo, intanto ce l'ho un calvo. l'ho fatto poco fa, gli metto a una parte, gli metto quello a 5 e quello là glielo lascio a 8. Sì, io se ce l'ho quello che avevo io, poi anche quello è una soluzione, funziona lo stesso. Però io sono convinto che forse perché la mia era modificata, spingeva di più, non lo so. Però sono convinto che veniva un lavoro fatto molto molto più bello, dai, andava meglio. Comunque, se funziona adesso lo sì, però avete fatto, ok, un cavetto diciamo in più, una cosa che non serve a niente. Io l'avrei fatto diretto. L'avrei fatto diretto, capito? Capisci? Mentre a mano un presidente di incomenti di Ghio, prima lo provo, però, prima lo provo, lo testo bene, lo apro, lo vedo, lo faccio, deve essere bello, nuovo, come dico io, mai toccato. Tu te lo posso dire io, che un cavetto me lo posso fare, io ce l'ho un altro cavetto, con lettore che vado da una parte e che vado dall'altra, faccio fare un cavetto diretto, con un M60 intanto ce l'ho. E poi te lo posso vedere avere gli strumenti di Ghio. Sì, ma anche tu poco fa, il tuo Lico era modificato, aveva più parte. Questo non ha tutti quei parti, non è modificato, questo è normale. Sì, beh certo, quello era modificato, usciva di più, però stai attento che quella radio, uno con le mani d'oro, la fa andare forte perché si può aumentare la potenza con una modifica facendo uscire molto di più, si può tirare anche come voce, come microfono, come LC che chiamano, che poi non è un LC, è un trimerino di modulazione, ok, praticamente del microprocessore, perché quella radio c'è il processore anche interno, c'è un microprocessore che fa lavorare proprio quando va in banda laterale, ok, quindi se uno bravo fa quella modifica come l'ha fatto Massimiliano al mio, tu dici 80 non entrati più, perché ti sto dicendo che il mio era a livello di questa radio, né più né meno. Capo. Sì, ma è vero che riesce bene. Io adesso, come tu mi hai fatto fare la prova poco fa, di abbassare da 50 a 500, di andare da 50 a 500, mi sono accorto anche dai LED qua, che i LED non arrivavano neanche a metà, modulando sempre dalla stessa distanza che modulo io, poi lo sai come modulo io, distante. E mentre adesso se ne va a fondo scala, a 50. No, cazzo, allora non ti comprendiamo. A me, se tu hai toccato l'impedenza, è chiaro che la differenza si sente. Sotto nella base, c'è scritto in out, lascia stare l'impedenza 50, c'è scritto in out, tu quel trattino ce l'hai in out o in out c'è scritto, ok, out è chiuso, in amplificazione, quello di sotto devi toccare, della base, non l'impedenza, no? Ah, avevo capito sopra, no, quello ce l'ho in. Ce l'hai in, mettilo in out, quello io voglio sentire, hai compreso o no? È chiaro che se tu, siccome stai usando il microfono con l'adattatore, se tu mi cambi l'impedenza io me ne accorgo. Prova a mettere, a togliere l'amplificazione, a vedere se si sente la differenza. Non si sente niente. E non si sentiva niente. Non si sente nulla, perché la radio non spinge, con la radio bisogna tirare fuori il manuale e dargli una girattina al microprocessore per spingere di più, poi la senti. Sì, il collegamento va bene lo stesso, però avete fatto un cavetto in più, capito? Avete fatto un cavetto in più. Vabbè, usala così. Sì, la uso così, ma ci posso provare a farlo, non è quello il problema. Non è il mio causetto. Aspetta. Ma non mi hai sentito? Sì, sto ascoltando un messaggio. Sì, stavo rispondendo un messaggio, dai. Comunque così, dai, funziona lo stesso, ma si poteva evitare tutti questi cavetti e cavettini. Si faceva il cavetto diretto, punto e basta. Sì, ma se l'avrebbe fatto diretto, sì, sarebbe stato un'altra cosa. Però io, come voglio avere problemi le MC60 secondo cosa gli dai, l'interessa gli dai, e me lo puoi, si può anche rovinare. Io evito di, ho copiato solo una quello e basta. E ho visto che esce bene, esce la radio. Solo che la tua era, mi hai detto tu l'era modificata, questa è normale, tutta normale. E ovvio che è così. Poi, se non avete il coso, l'amplificazione dall'interno è diverso. Sì, ma non va tenuta la MC60, non abbiate problemi. Non abbiate problemi. Alle 60 le succede qualcosa, se tu inverti l'alimentazione degli 8 volti diretta dalla radio, allora puoi andare a danneggiare intanto prima la radio del microfono e puoi andare a danneggiare anche il microfono, ok, perché stai invertendo l'alimentazione. Ma se tu l'alimentazione la elimini, puoi invertire qualsiasi tipo di cavetto, il microfono non ti esce, non esce, basta, ok? Quindi è alimentato dalle batterie, è un'altra cosa, ricordati che il MI60 ha due alimentazioni, una diretta dalla radio, da tutte le radio, okay, che riceve, sia IAESU che ICOM che Kenwood, perché tutti hanno 8 voci, mi pare lo IAESU c'ha 6 voci, non voglio dire una fesseria, però tutte le radio HF hanno l'alimentazione diretta dal connettore per i suoi microfoni. Anche se io vado ad adattare il Kenwood, praticamente l'M60 all'ICOM perché ce l'ho, ok, c'ha gli 8 volti lo stesso, il cavetto è sempre quello, non ce n'è adattatore, sono invertite le polarità, perché sono invertite le polarità, ma gli 8 volti va a prenderli dalla radio, non ce n'è batterie, viceversa è con un baracchino che non ti può dare l'alimentazione diretta. Allora l'MC60 è stato fatto anche per usare su altri tipi di radio che non hanno l'alimentazione diretta, quindi la casa costruttrice ha fatto una serie di batterie, ok, come hai visto, con un altro sistema rosso e nero piccolino che va ad appoggiarsi dove? Al circuito di preamplificazione. Se tu lì non metti le batterie non va alimentato il circuito di preamplificazione, capito? Non va alimentato, quindi è un'altra cosa, sono due cose separate, capito? Quindi non vai a danneggiare niente se sbagli connessione, non vai a danneggiare nulla. Sì, capito. Io non ci provo. A una parte glielo lascio normale, la chiedo, e all'altro gli metto il connettore a 5 di metto, all'altra parte, questo che ho qua, che l'ho fatto poco fa. E poi vediamo. Esatto, stai sperimentando, sperimenta fra. Sperimenta. Perché io cosa facevo? Staccavo quello a 8 e 8, no? Quello suo originale Kenwood, e andavo a agganciarmi con quello del presidente Lincoln, l'altro me lo mettevo da parte. Non sto danneggiando assolutamente niente. Sì. Voglio sperimentare niente. Adesso non ne ho connettori, a 5 non ne ho. Perché quello che sto usando adesso non lo voglio toccare perché è del microfono del presidente Lincoln, quello lì. Che i capi non li ho tagliati, li ho solo ritardati e poi ritardarli di nuovo davvero. Sì. Tu vai a copiarti il connettore che hai già fatto, va bene? Quello che prendi Lincoln, l'altro te lo lasci così com'è, attaccato al coso, e quando tu schiacci il PTT partono tutte le connessioni, ma va lui a connettersi dove trova la femmina, no? Dove trova il maschio o la femmina che le dà le connessioni giuste. Che cosa ti può, cosa succede? Non succede niente, non cambia nulla. Questo è quello che avevo io e poi non lo so, però ti ripeto, la tua radio non spinge come quella che avevo io, nel modo più assoluto, lì c'è la... Peccato io non ho fatto foto, non ho fatto niente, è lavorata così, mi pare anche col manuale, con qualcosa del genere, cavetto già pronto, tutto, poi è andato tutto a casino perché povero Giampaolo era non una persona brava, ma c'era da farle veramente il monumento al cimitero per tutto quello che ha regalato, ha dato, ha scambiato, lascia perdere. A volte se ne approfittavano anche perché lui era troppo bravo, perché sennò quel baracchino dove poi è andata a finire per la fine che ha fatto, è stata veramente una cosa vergognosa. Che voglio provare, quando compro il connettore per la casa, faccio la cosa, compro il connettore, se io però sono così a quattro, se io non di nuovo, però non me ne c***o neanche uno di quelli a 5. Ma no, bisogna prenderli, no, neanche uno qua, vabbè, quando salgo li prendo, e lo provo su questo fettore, gli ho fatto oggi della prima. Yeah. Buonasera a tutti. Daniele. Sì, provaci fra. Un lavoro fatto a regola d'arte, anche se tu ne hai uno di M60, poi so che ne hai due. Uno M60 lo lasci fisso con il suo cavettino al President Lincoln e l'altro te lo usi con C80. In caso contrario ne hai uno di MC60, stacchi il connettore originale Kenwood, lo metti da parte, quando usi quell'MC60 vai a agganciarti nella base 8 dell'M60 e quello a 5 te lo attacchi diretto al President Lincoln. Un capolavoro. Poi, nel momento in cui tu c'hai il computer, vuoi vedere, vai, ricerchi il manuale, adesso non so come cacchio si chiama, del President Lincoln modello Bimbomba, vai a guardare la parte proprio del mic, se conosci i componenti, guardi che c'è un microprocessore piccolissimo, mi sembra che era la fine della radio perché l'ho vista aperta, però se me lo fai vedere va magari in bagno buru, perché sono passati tanti anni, comunque nel manuale c'è sicuramente. Quel microprocessore c'ha un primerino che va ad aumentare proprio il mic gain, rendo conto che devi cercare di darle una via di mezzo, perché quel mic gain, quel microprocessore lavora anche per la banda laterale. Questo è quello che mi ricordo io, ok? Altro non mi ricordo, non lo gioco perché io l'ho visto aperto, ho fatto delle domande e mi sono state date delle risposte, ma ti parlo di tanti, tanti anni fa, capito? Fra entrare Daniele, vai. Ehi, ciao, vai, va bene. Avanti Daniele, buonasera. Buonasera Franco, salutoni. Dove ti sta arrivando dalle tue parti, Fra? È un segnale di fine, la radio di 5, buona. Meglio di ieri? No, Daniele, come segnale come ieri. La radio mi sembra che è leggermente migliorato. KK. Va bene. Meglio così. Qua ancora tutto funziona da stamattina. Non sei contento, evidentemente le passate un macchino. Secondo me tu la stavi lasciando troppo in stand by quella radio. Oppure la stavi usando chiusa, usa l'aperta, fai andare il sistema cold e fai andare, devi andare. Perché tra l'altro è successo a me, il mio LAN 48 era anni dentro l'armadio, non lo usavo perché tutte le volte lo usavo, era un casino, casino. Ok, sentivano anche i camionisti nella 131. Allora, e quindi l'ho lasciato perdere. Adesso che c'è molta più calma, l'altra volta da un bel po', adesso non ce l'ho più, l'avevo preso, l'ho attaccato e non entrava in funzione il sistema, capite? Si era incollato il relè, quindi toccava prendere a colpi. Alla fine l'avevo venduto, adesso c'era un camionista, capito? Perché sono radio così, sono troppo piccole per fare quel sistema lì. Oppure se ce l'hai, come aveva Gigi in camion che lo usava giorno e notte, e allora è un'altra cosa, ma se lo abbandoni ti si inciola tutto, Daniele. Mi ha fatto come ieri, l'ho acceso ed è partito, però ieri poi si è fermato. Secondo me è qualcosa qua veramente che, come gli dai il colpo dell'accensione, magari lo accendi che gli dai tensione, come accendi, tac, allora si attivano di colpo, capito? Sicuramente è qualcosa che si blocca, magari non c'ha niente da componentistica. Non so. Riprendi o fra che c'ho un altro messaggio, un attimino. Ehi, chiaffa, vai. ti ascolto ancora meglio, Daniele. Meglio così, dai, fra, perché sto facendo sulle lunghe distanze, dai. Qua vabbè, Claudio e chi c'è, siamo abbastanza vicini, linea radio, quindi basta o niente, il segnale aumenta. Adesso vediamo prossimamente cosa riusciamo a fare, dai. Va bene. Ok, dai, riprendi, fra. E capo. Oh, ma guarda, la radio è perfetta, eh. Ti ascolto 100%, ti ascolto come radio. Segnale, sì, modulati, sì, però quello che importa è la modulazione, che faccio la modulazione, poi del resto cosa te ne frega. Tu se riesci a tirarla su ancora un po' e a aumentare un po' di segnale è ancora meglio, perché dalla posizione che hai detto tu che ti trovi. Sono sicuro se riuscendo a metterla sul petto quella lì, qua mi arrivi più di 9. Perché da qua alla fine ti ho di fronte, capito? Io diciamo che se non avessi avuto i palazzi davanti si vede tutto quanto. Capito? Porto torre, sorso, tutta quella costa lì. Sì, sì, no, ma già va bene, dai, ti ascolto bene. In confronto ai primi giorni si è centrato, i primi giorni eri quasi zero. Vabbè, perché qua il bello è che in ricezione state arrivando tutti forte, almeno lo Smith è quello che è, però sto prendendo un punto di riferimento. Partite da minimo di 9, 9,25, massimo è Claudio è 9,30. Capito. In ricezione non ce n'è, in trasmissione che c'ha qualche pecca. Beh, anche l'antenna è alla fine, una mezz'onda è. Anche quello è. Sì, ma diciamo che non so, adesso in questo momento non so come stavo usando il baracchino, il presidente Lincoln, e ci ho collegato l'MC60 come microfono, mentre adesso sto usando il K, con sempre con l'MC60. Già va bene, già va bene. Ok. E qua sto usando io 9 watt sono alla fine, no, niente di più, non sale, non so se il collageggio è giusto, bisogna controllarlo con qualche radio serie e fare la comparazione. Con 9 watt stai arrivando bene, per la posizione che sei messo, dove c'è l'antenna, arrivi bene con 9 watt, non ti credere che io, vabbè. Io sto dando molto di più, sto dando di nuovo, se sto dando 30, 40, 50 modulati. Già lo so, l'ho avuta quella radio, già l'ho avuta e usciva bene, e va bene. Adesso vediamo, hanno piazzato la 5 ottavi, cosa dice? Eccomi, Lei a qua, riprendi là. Dice, dovrebbe uscire meglio, dovrebbe uscire. Avanti, ciao. Cosa dovrebbe uscire meglio? Questa che c'è adesso con l'altra? No, quando metterà la manto per la 5 ottavi, dovrebbe uscire meglio. Sì, per dire, perché qua è 9,10, con picchia 9,15. È cominciato la Santiago 7, Santiago 8, Santiago 9. Adesso è 9,10, non picchia 9,15, così come sta uscendo adesso. È chiaro che io sono a Sassari, poi la mia fortezza è praticamente a vista ottica un po' con tutti. Però con te il segnale che le dai è più che sufficiente, perché se tu vedi dove ha messo l'antenna, è praticamente attaccata alla parete, staccata a 30 cm dal muro, sollevata sino all'altezza della casa, non è sopra il tetto, capito? Quindi va più che bene il segnale. Adesso vedrete solamente la bobina la fa scavalcare, claro. Ma non c'ho più palo, perché la bobina adesso è a pelo di Mantovana, si può dire. Immaginati, se vai ancora con altri 2 metri in palo, sono convinto che da Franco aumenti anche qualcosa in più. Però ti ripeto, ribadisco che il tuo segnale è iniziato da segnale di 7, Santiago 7, sei già 9,10, quindi l'incremento del lavoro che stai facendo e che hai fatto va bene, non è che non hai migliorato, capito Daniele? Riprendi, fra. Capo, sì, sì, ho migliorato parecchio, perché io la prima volta che l'ho sentito era 2-3 il segnale, poi piano piano ho cominciato a salire a 4, poi 5 e poi adesso è a 6, sì, modulati, però la radio è aumentato anche di radio parecchio, perché prima di radio lo ascoltavo malapena, mentre adesso lo ascolto pieno, lo ascolto tutto il 5, radio 5, perfetta, avanti. E si conferma, è chiaro che prima ce l'aveva a terra, adesso sta già riuscendo la punta dell'antenna, già mettere l'antenna è fuori, deve uscire la bobina e poi vediamo cosa succede, però in quel caso Daniele deve essere ancora a bere per mettere una mantova, la mantova non ha il peso di quella, no? No, prendo l'Energy 5 ottavi, là, che è leggera come la Ringo, capito? E i radiali toccano al muro? No, i radiali poi li faccio scavalcare la mantovana, capito? Vabbè, se riesci a fare una cosa del genere, sono convinto che vai alla grande, e purtroppo però parti da terra, quindi è chiaro che ci vuole più qualificazione, però è un lavoro simile a quello che avevamo fatto a Natale. Va bene, adesso si tratta di finire così con quel lavoro lì e poi vedere se praticamente il risultato sale, dai. Ma ti ripeto, in linea di massima sei già quasi al top per conto mio, perché hai più o meno il segnale che avevi quando l'antenna nel poggiolo piazzata lì a culo di scimmia. Vabbè, tu pensa che lì c'è anche 50 watt di modulazione col K, qua sono a 9, 10. Io me lo dice già venire in linea retta. Riprendi fra un attimino che devo rispondere. Chiappa. Però Daniele, devi stare attento, anche se mandi i radiali su sopra della mantovana, che non siano antenne in TV, perché se le metti allo stesso testa, magari uscendo liscio non fai niente, ma se gli metti qualche linea retto, un po' di potenza in più, probabilmente gli disturbi. Guarda che ha provata prima con la mantova, Claudio te lo può dire, prima non c'era il gemello del tuo, 50 watt, una mantova turbo che è diventata una mantova 5, lì 50 watt, anche altri linearetti, mai avuto problemi, ed è la stessa posizione, lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima, si può dire. Anzi, adesso poi la Ringo è poco micidiale a fare TV, è forse una delle peggiori che esista. Ma quale? Ti stavo dicendo a Franco, cioè Franco mi ha detto di stare attento poi a non fare TVI se dovessi mettere un linearetto. Ho detto, ma nelle condizioni in cui era prima con la Turbo, che era diventata una 5, nelle condizioni in cui era messa quello di scimmia, mai fatto TVI? No, assolutamente, quando lì a quella radio metti un 747 col filare a MOSFET e usi la potenza normale e ti tira fuori un 70-80 watt, tu sei a posto, senza mettere amplificatori a valvole, mille cose, basta legnare il tiro piccolino, capito? Io ne ho due, però mi servono tutte e due, mi servono perché possono servire, capito? Possono servire, se no li avrei venduti anche quelli, però legnare no. Forse mi serve la Massimiliano uno, tipo un B300, però è finale a MOSFET, tipo 747, mi pare sia della CTE, se non ricordo, un centinaio di euro ne vuole, però è un bel lineare, quello l'avevo provato io in quinta marcia tira fuori 200 watt, capito? Va bene. Avanti fra. Ehi capo. Sì, avendo un lineare così a marcia è bello, perché quando si dà 200 watt sono un bel 200. Ma non c'è bisogno neanche del 200, perché basta anche 100 per modulare qua. KK. Adesso vediamo quando si sistema tutta l'antenna, che suona a posto, che è quella definitiva, con la posizione sua. Vediamo cosa migliora, se c'è da migliorare si pensa a migliorare un altro po', con qualche aiutino. Va bene, va bene. Riprendi qua. KK. Sì, ma infatti conviene. Sì, fra, conviene avere così il rettino piccolino. No, io ho il 747 addirittura ce l'avevo attaccato al proprio sul dacchio o da niente, perché le valvole sono andate proprio a esaurirsi completamente, da dare un watt e mezzo, due watt neanche. E Gianni Caprino aveva dato le valvole nuove e quindi le ho montate, e però non cambia niente, evidentemente la radio è proprio andata come così, come vecchiaia. E allora, siccome da 4 watt, dietro, proprio nel pannello di dietro, col biadesivo, proprio non si vedeva, avevo attaccato il 747, no? Che dietro è abbastanza grande, dietro lo spazio invece non si vedeva, quindi perché era fronte a muro, e niente. E quando lo accendevo da 4 watt passava intorno ai 60 watt, e quindi insomma si può usare così. Ah, invece è per la mucca del butto, lui, lascia perdere. Iuia, vabbè dai, è morta di vecchiaia alla fine. Sì, ma veramente, l'accendo ogni tanto in ricezione, la lascio accesa, faccio scaldare bene, giusto per la componentistica, ma in trasmissione è proprio a ditto bassa, non ne voglio bisogno. E ho fatto anche la connessione del turner, poi alla fine gliel'ho cambiata, l'ho fatta sull'Elbex, perché tanto non lo usi, però è sempre in ottima, sempre bello lucido, sempre bello, mi faccio la foto tra l'altro, è sempre bello ordinato e pulito, ma è proprio molto. Ha detto Big Bag, ha detto stop, lasciami riposare tranquillo e sireno. Ma c'era un periodo che lo usavo col turner più 3, facevo delle prove e nessuno si accorgeva che cambiavo radio, come stavamo parlando con Franco, il turner più 3 è il DAC, perché accendevo linea retta, mi dava intorno a 60 watt, quindi segnale c'era, ma la radio era favolosa. Poi boh, non ha voluto BSB, ma non ha male, è sempre in chili, ha detto rimane in chili. Ogni tanto lo accendo e rimane lì, si abbia le luci. Vai fra. Ecco, la tua esperienza con c'è un poco fa, c'erano volte che non capivo mai se cambiava il radio, eppure cambiavi ed era sempre la stessa la modulazione. Vabbè, è il dono che c'hai dalla corda vocale, quelle si chiamano. Alleluia, fate la mia. Cara, ciao, la vendiamo mica, come pezzo storico, monumento. Un attimino che mi chiamano dalla regia, arrivo subito. Cappa. È bello avere le corde vocali grosse, perché almeno non hai bisogno di amplificato. Oioia. Va bene, va bene. Oioia. Quella la teniamo a monumento, la teniamo con la radio. Sì, monumento, si basta usarla ogni tanto. Io ne ho tre qua che non le uso mai, sono sempre spente qua. Sì, non so se lo conosce, mi è rimasto solamente le gain o quarta o ottavo, quella che sembra una console. Ehi, già la conosco, aspettate un secondo che devo uscire. Ehi, acca. Che sembra una console, ecco, come si chiama? E gain ottavo dovrebbe essere, che resta una console col telemano poi sopra. Non ce l'ho presente. Poi mandala Claudio, mandala e me la manda lui. K. Non ce l'ho presente. No, io ne ho uno qua che del 78 mi sembra che sia. Del 78, esatto, 1978, ed è un Midland novello di 78 574. Aspetta, ti ho sentito, qua stavano parlando fra me, hai detto un Alan? È un Midland ed è del 78 ed è, il modello è 78574 da base ed è bianco. Quindi non lo conosco quello. Questo lo mando a casa e te lo faccio mandare. È bello quello, esce bene, esce, solo che c'ha pochi watt, esce sono 4 watt. Cava, cava, dopo lo cerco allora, lo mando a Claudio e me lo guardo. Ecco, vai, al limite glielo mando, se no se c'è internet, gli metti la sigla e te lo va subito. Va bene, dopo lo cerco, cioè se qualcuno ha qualche altro canale. Cioè, sbatti. Sì. Io già non ne ho, io sono solo qua. Non c'è nessuno qua da sotto. Beato a te. Oh, io ma ma Benito, smesso di modulare? Ma no, ho più sentito. Non lo so se ha smesso, se perché mi sembra che aveva cambiato casa, da qua se n'è andato, da vicino a Sorso. Poi non lo so. Perché siccome ci passo spesso io lì, alle parti dove abitava Benito, no? E non c'è neanche più l'antenna. Ecco, becco. Oh, Daniele, hai visto la foto? Registrato il break. Ecco, non c'ho il telefono a fianco, adesso me lo faccio portare, la guardo. Fai entrare il break. Ehi, ehi, giusto per farti capire, dove è. Avanti il break, Avanti, avanti, beh. Scusate, ma Morfolo mi ha catturato. Ti, non ti avevo manco riconosciuto, figurati. La voce cambia, questa è un po' più rifusata, insomma. Mi segnala mattina. No, non è che questa cambia, no? Proprio fa schifo perché sei saturo che non riesco neanche a capire le parole. Addirittura. E addirittura sì, Franco, come lo senti tu? Il segnale è 9.25, però non hai radio. Io l'ascolto 9.15, però radio nulla, non me ne ascolto, lo pensavo che era lui. Aspetta, aumento un pochino. Anche se si schiarisco leggermente. Guarda, sto così con me, sennò cambio tutto. No, no, no, no, non va. Claudio, tu? Eccomi. Adesso ha passato tutto. Guarda, mi guarda un po'. Oh, hola, hola, guarda un po'. Ha cambiato? Al 100%, adesso sì che sei tu. Si è abbassato il segnale, questo lo so, però va bene, no, volevo solo provare una tipologia di... sto cercando di trovare un compromesso tra queste cose. Certo, però lo stai usando, il Midland? Sì, però con un più 4, che a breve dovrò smontare. Certo. Sta uscendo bene la modulazione, sta uscendo. È bella, sì, ma l'altra che la satira cosa sta usando? No, stavo utilizzando l'amplificatore, non va bene neanche con questa radio, quindi la devo, bisogna già la porto giù. Ho capito, cosa stai usando? Il 48 sto utilizzando, lo più qua, poi ho l'altro amplificatore che però va quello valvolare. Ma vuol dire che c'è troppo ingresso, l'accoppiamento non è giusto, poi ti te l'ho detto, i lineari valvolari ormai vanno lasciati perdere, perché guarda, io ce l'ho dentro l'armadio, un G27 fatto a biella, che c'ha 4 tubi L509, eroga in AM quasi 600 watt, in banda laterale sono quasi 900, ah. Tutte le volte che l'ho attaccato, voce da schifo, con qualsiasi tipo di baracchino. No, ho tolto le valvole, le ho conservate per recuperarle, le ho messo dentro l'armadio, proprio tolto a mezzo alle balle. Non servono più, di linee valvolare oramai sono andati. Quelli allo stato solido stanno andando, con quelli finale a MOSFET, tu le dai i suoi watt che ti richiede lineare, 10 watt d'ingresso, ne dai 8, 9 e lui viaggia alla grande, quindi lineare valvolare, gatto, mamma mia, gatto. No, vabbè, è che questo è, questo fa da mi sembra da mezzo watt, un watt circa, sino a 15-18 modulati, quindi penso che andrà bene, ma ne ho un'altra che spinge di meno, quindi devo provarla lì, capito? No, scusate, li prendo io, dai, che sto chiudendo e che stiamo uscendo. Ce l'ascoltiamo alle prossime, buona serata a tutti, dai, saluto ai circolari. Ciao Daniele, un abbraccio a mamma e a babbo e a moglie, è quello che hai a carico, ok? Già ci sentiamo con calma, stiamo bene. Ciao Daniele, li prendi fra. Caffa, ciao Daniele, buon proseguo, buon tutto, dai, ce l'ascoltiamo. Capa, adesso c'è la suocera, se c'ha un po' da recuperare. Ciao Daniele, ciao. Ciao a te. Dai, ci ascoltiamo domani, se coincide, dai, buon proseguimento. Va bene, dai, il bianco per me che rimetto tutto l'ambarazzo come la prima e provo a attaccare l'altro a, vabbè, solo all'ecco. Vediamo se va bene con quello, lo faccio con quello, se no lo parcheggio, se lo scendo giù o lo offro per uno anche più piccolo, giustamente, per fare un cambio e cambio senza vendere niente. Non è compatibile con questa radio che ho capito, quindi non va bene. Se va bene a quello con l'eco, vediamo, là. Ecco, no, però deve essere che sia accettato. Cazzo, vedi un po'. Comunque questa la radio è buona. No, sono qua e sto rispondendo a messaggi. No, questa è bella, abbiamo fatto le prove stamattina, no? Abbinamento MB più 4, MB più 5 col 48 è favoloso, il più 4 esce molto bene col 48, ma l'avevo già provato anche io, capito? Sono andato io a provare giusto così per vedere la differenza che c'è dal 4 al 5, proprio prendersi conto appunto che se un domani magari vuole comprare un microfono sa che può comprare anche il più 4, fra, capito? Esce molto bene. Sì, sì, capita, il 4 va bene, anche io lo ce l'ho e prendo una bomba. Chissà che la cavola non fatta a caderci dentro il microfono. Se ti provo, vabbè, più 4 se ce la tiro, se ti provo più 5 io, con l'Elbex, vuoi vedere che non ti accorgi se ho cambiato modulazione? Sicuramente, non chissà cosa che vai. Adesso è da già da 10 minuti che io ho cambiato radio, tu non ti sei mai accorto, adesso sto usando il nuovo 440. E come faccio ad accorgermi che c'è sempre la stessa modulazione? Non è come me che cambio. Sì, l'ho smesso il 43, ho commutato, cioè veramente acceso, però l'ho lasciato, ho cambiato banda, l'ho messo in 40 metri, proprio per tenerlo acceso, però già ci ho parlato un bel po'. Ho commutato al 440, capito? Vabbè. Usciamo a Udodinà con tutti le radio che avevamo, Giambardo, Vatto, Bumparaddo, i Vindudi, madre di Dio. Sì, nella vita abbiamo avuto. Ora, attenzione Claudio. C'hai un innesco, però ti ho capito, vai. Aspetta, divina. Però la radio fa, guarda, fa pena. Cosa? Va bene, dai. Oh, oh. No, no, lo stacco, lo stacco. Metto il più 4 col 48? Sì. Adesso metto il 5, così almeno metto tutto in busta. Sì. Non mi sono vuoto. Uscivo un piglio più. No. Sì, sì, questa è una bellissima radio. Bella, bella, bella. Anche il più 5, te l'ho detto, sono molto simili. Il più 5 c'ha i più acuti. Questa c'ha i medio-bassi, che è simile a quella del K. Più o meno siamo lì, la tua modulazione è quella lì, non c'è niente da fare, va bene. Aspetta, che ho staccato il microfono, guarda se va bene questa. Ma è grande. Non devo toccare niente. No, no, no, no, non devi toccare nulla, questa è la modulazione del K, ma è da bravo. Ha detto di cosa a me, ma tattino con il mio BP5, fare un K. No, vabbè, perché con l'altra radio, là, era più alto il volume, quindi se lo devo lasciare così. No, a me non mi dai fastidio, è molto amplificata, è bellissima. Poi se qualcuno ti dice abbassarla, la puoi abbassare, ma per me va bene così, fra. Sì, sì, anche a me va bene, perché è chiara anche la modulazione, è bella. È come che usa il K, là, quando usa il K. Aspetta, guarda. Così, o forse, anzi forse era, ecco, così è quando lo utilizzavo prima, poi l'ho dovuto abbassare. Che differenza c'è? Da così a così che mi ha detto che andava bene. Una 500 e una Mercedes. Ehi, capo, guarda, ti ho aumentato la radio, come segnale non ti sei quasi spostato, sei 915, 915 ieri, ma la radio te l'ha aumentata bella. Quindi, vabbè, andava bene anche il 4, per carità, però il 5 è sempre solo... sempre in una marcia in più secondo me. Perché stai usando il tono a 1,5? Sì, sto usando il tono a 1,5. Questa è la modulazione del K. Se tu chiudi i toni si assomiglia al più 4, però come ti ho detto stamattina non c'è niente da cambiare. O 4 o 5 sono i microfoni che si addicono a te. Quindi lascialo così, più 5, 1,5, lo puoi tenere in questa posizione, lo puoi anche abbassare leggermente, non cambia niente, però la timbrica è quella del K, se te lo dico io a Franco stai tranquillo. No, no, io ci credo, figurati. Va bene, va bene. Anzi, se cosa posso valutare dalla proposta, Ciccio? La proposta? Proposta indecente. Se prendo il mic. Ti prendi il mic? Il mic, il microfono, mic, hai capito? Mic, buongiorno. Ah, te l'ho detto cosa vuoi, ti. Se vuoi te lo rimando vocale, qui sta a te. Io, ripeto, ribadisco, se fosse stato il mio, ti avrei detto te ne diru, ma siccome è roba mia non posso dire sì, no, ma perché? Lo so, lo so, lo so. Va bene, dai. Vedo un pochino. Sicuramente il microfono è in buone condizioni, va bene, funziona bene, vai a comprarlo nuovo e spendi le 20 euro in più. Però tu mi dici claccelo nuovo, ma quello è in buonissime condizioni, non è che... per quel prezzo è in buone condizioni. Poi attenzione, perché parlavo proprio con Franco. Allora, io ho trovato Antonello stamattina al Trisbaro, fra, mi sono dimenticato di dietro e l'ho chiesto appunto dei microfoni, forse te l'ho anche detto. Allora, il MB più 5 è passato da 55 a 75 euro in vendita e poi chiaramente ti fa lo sconto, te lo puoi dare 65, non so, ma da grande molto la signora Giovanna si è diventato un po' buganimoci, chi vedrà, intanto Antonello non c'ha più le... aveva molto più dialogo con i clienti, anche perché Marzia non regala niente, la figlia, capito? E il più 4 mi pare che costa intorno ai 55, capito? Quindi, perché prima quando l'ho comprato io il più 4 avevo pagato 35 euro scontato, e il più 5 10 euro in più, forse 15 euro in più, capito? comunque era poco, forse era 55 o 50 me l'avevo lasciato. Adesso sono cambiati i pezzi, eh? Sì, bene, perché secondo quanto mi vuole li trovi di meno in internet. E infatti anche lui mi ha detto la stessa cosa, dice alla fine, a me non me ne ha fatti nulla. Quando vengono io faccio il prezzo che mi dicono loro, se le conviene me lo compro, ma se no vanno su internet se lo compro. Poi quando si lamentano si arrangiano, queste sono le parole sue, sono le parole sante, perché sono di uno che c'è 40 anni lì dentro, ha sempre fatto tutto lui, ha sempre portato i clienti tutto lui, però se io sono a Sassari, mi servono meno più 4, più 5, e me lo vai a 75 euro, e lo buon pareggio a 60 euro, compresa la spedizione su internet, e dirò bene, giustamente. Però mi ha detto non ti preoccupare, quando ti servono a me, tu vieni, io già lo sconto te lo faccio. Vabbè, era giusto per capire il prezzo dei microfoni, ecco. Perché sono saliti tanto, la roba ZG è molto più costosa rispetto agli altri anni, eh? Vai ti. Aspetta, ho detto? Sì. Ah, ecco, vedi, questo qua è il fatto di... Sì, prima però sei parito, non ti sento più. Sparito? No, adesso no. Ogni tanto sparisci. Perché il microfono è collegato a un aspetta un attimo. Se non sei collegato bene, la radio 5 è perfetta, non amplificata, ma va bene. E bene tu frate, ma va bene. Ehi capo, sì, sono qua sparito. E te va la fra? No, stai facendo un attimo. E poco fa sparito, guarda. Vabbè, questi sono... questi vecchi. Se metti il V5, guarda, e vabbè, 69-70. Ok? Sciugato le 8, meno 20 sono. Dopo la notte, ci metto ancora la ruzza, devo buttare un danni, ti sciuga. Bobo, allora commentami. Il tempo va a fregarti. Oh, ci sono? E io. Ma spiega una cosa, ti spieghiamo una cosa, si torna del Parì. Ora, ora, ora. Ho detto, spiegami, mi senti, sì. Sì, sì. Ho detto, spiegami una cosa, perché non esco col V4? Questo è il microfono normale. Il più 4 dove? Nell'altro 48, ne ho due 48, uno che era associato Echo. Ah, non lo so io perché. Quella connessione è Alan 48, tranquillo, perché l'ho provato io nel mio e tu l'hai provato anche nel tuo ed esce. E nell'altro non lo so perché non esce T. Che non abbiano invertito le connessioni per la camera Echo. Il 5, dai. O lasci che abbiano invertito le connessioni per la camera Echo T. Perché lì batto un filo, quindi che inverti il microfono non esce più. Quello è Alan 48 il microfono, perché io quello l'ho provato sull'Alan 48, l'hai provato anche tu senza adattatore, quindi è chiaro che è per l'Alan 48. No, aspetta, se no. Se anche il mio 5 esce con questo. Devo farlo controllare. Non devi far controllare i microfoni, c'è un'inversione per la camera Echo. No. Così, perché tu c'è lo spezzone dalla camera Echo al baracchino e il microfono sulla camera Echo. Poi non è così, allora io sto utilizzando adesso un microfono normale con l'attacco del 48 normale, quindi il più 5 con l'altro 48 ha le stesse connessioni e il più 4 idem compattato, però se metto un amplificato fischia. Nella camera Echo? No, la camera Echo l'ho eliminata. Se fischia vuol dire che non lo so, c'hai due Alan 48 tu quindi? E mo, certo, lo sto dicendo poco fa, sì. Ecco. E allora su una parte, su un 48 funziona e sull'altra no, sì, non lo so, però quelle connessioni 48 perché l'ho provato anche l'airbag, se c'ha le stesse connessioni. Il microfono mio dell'Alan 48 va bene anche all'airbag, capito? Avanti Massimiliano. Sì, claro, volevo capire questa radio se è aumentato. Volevi capire se è aumentato la radio. ma di segnale. Ah, ok, guarda un po'. Adesso è il segnale tuo. 9.10 con picchia 9.15. Va bene, ho sistemato anche il coso, lo Smith, adesso funziona tutto. Ehi, va bene, va bene. Il segnale senza problemi. Cettino e Franco, vai. K, buonasera a tutti. Ah, no, era giusto per un controllo per vedere se era tutto bene, che ho toccato anche due trimerini dentro. Ciao, Sfina, stai innescando leggero. Aspetta, adesso non credo. C'è quello per l'ascolta troppo alto. K, positivo. Niente, ti ripeto, questo più 5 ha le connessioni del... dopo ti rilancio a Franco per i saluti, scusami, ha le connessioni del 48 normale. E non, io ho due 48, quindi uno lo stavo utilizzando con la camera ecco, però se metto un amplificato da tennesca, via. Vai, riprendi il capo. Capo, ciao Massimiliano. Ma stai usando il modificato, Massimiliano? Sì, però tutto chiuso, Ehi, capo. Insomma, per... che c'hai la modulazione molto alta, è chiara. Molto alta? Allora, aspetta che c'ho anche la regolazione della tonalità. Allora, così fra ho girato il pomellino della tonalità, guarda se ha migliorato. Ma sì, no, ma ti ascoltavo bene da tempo fa, Massimiliano, anche se è alta. Solo che ti ho chiesto per quello se era il modificato. Tanto il modificato riesce sempre così. No, però questo l'ho abbassato un pelino, guarda. Mi abbasso un pelino ancora il Mickey King. E ciao, e ho dietro, in poche parole, la regolazione della tonalità, che hai capito, un po' più basso, un po' più alto. Sì, ma va bene così anche, non dà fastidio, non dà. A meno che uno c'ha la sua... sono lì per ascoltare. Anche io ho toccato appena per una cosettina, va. Ecco, avanti, ciao. Sì, no, va bene, Massimiliano. Ti stavo dicendo, se tu inserisci il microfono da tavolo nella camera ecco fischia, è normale, anch'io con quello modificato mio, se metto il microfono per amplificato innesca. Noni, ascoltami, la camera ecco l'ho presa e l'ho buttata da una parte, ok? Non c'è, non la cercare. Ora sto usando l'altro 48. Nel 48 che ho a fianco, se vado col microfono normale, ok, esce, ma classica modulazione, microfono normale. Se gli metto il più 5, il più 4 innesca, sicuramente qualcosa da fare, questo non lo metto in dubbio, perché lo sto utilizzando con questo più 5, ho utilizzato più 4 con questo, quindi non è roba di microfono, è roba di radio. Sì, può darsi pure, ti ripeto, che abbiano fatto qualcosa per l'adattamento della camera ecco, tra baracchino e camera ecco, mi pare che c'era un adattamento da fare, non lo so, non me ne intendo io, l'ho visto una volta che manovravano, facevano, Antonello me l'aveva fatto vedere. Pure, ma i microfoni ti assicuro che sono tutte e due, cioè il 4 è connessione al 48 perché l'ho usato nel 48, nell'Airbex, mentre negli altri radio ci voleva l'adattatore, capito? Tutto qua, vabbè, comunque va bene così, Ok, e quello che dovevi fare l'hai fatto, Massimiliano, l'hai fatta la porta, no? Non c'è venuto? No, non c'è venuto. Oddio, una prova che puoi fare, sai che cosa è? Per vedere se ti innesca. Prova a metterci una colonnina esterna e prova così, escludi quella della radio, vedi un po' se ti innesca. Ho capito, perché questo qua ha il parlascolto, capito? Questo è modificato, 120 canali, senza eco, l'eco gli ho messo la camera eco esterna. E niente, sicuramente comunque come stava dicendo Claudio, perché questo qua l'aveva fatto tempo fa Antonello, ma qualche anno fa, che mi ha messo la camera ecco con questo baracchino qua, però mi sembra un pochino strano, se io collego il microfono normale va bene il radio, capito? Innesca perché c'hai la cosa allora, innesca perché c'hai il parlascolta, guarda te lo faccio subito in diretta anche io, va. Vedi? Questo c'ha il parlascolta, no? Io passo il parlascolta e non innesca più. Sì, ti metti la colonnina esterna e non ti innesca. Vabbè, ma al momento mi viene male tu, allora. ho capito, vabbè, lo farò con molta calma. Ok, dai, io comunque rimango in ascolto, vado un attimo a farmi una doccia, ciao. Ciao, Massimiliano, dopo e anch'io farò portare il cane. Mi sono accorto che c'ho il cazzo giallotto, ancora illusi. Mamma mia come sto, ancora peggio mi fa. Ma manco prima di sera c'è bucio, ma vado andare di nuovo a fa bucio. Ciuccio, e che non basta più. Ah, un'altra cosa, qua. Ara. Ho visto, amico, la scuola fuori c'è un pezzo di capo, non so se è il tuo. Hai visto? Ah, vabbè, ma lo rifai nuovo. Appassionato come te. Sì, ogni tanto, ciao, ciao. No, vabbè. Ecco, cosa vuoi che sia, a 6 anni quasi. Quant'anni va? Quasi 6 anni. Ah, cos'hai, concimato? È di buona forchetta. No, ma è molto alto, ti. No, qua, spesso non sono incoglionito, quasi 7, volevo dire, ma 6 anni compiuti, sì. Vabbè, per avere 7 anni quasi è molto alto, ben piazzato anche fisicamente. Vabbè, ma ho fino ad esami, vabbè. Cos'è che vai a bozze, Eugenio? Cosa vai a bozze? Cazzo, tutti che sempre parlando con i portotorresi. Abbassa le voci. Ma con chi ce l'hai? Non sento nessuno. Eugenio, vai a bozze. Ogni tanto lui, prima, siccome è Sentino, ha fatto le prove da Sentino, arrivava quasi 9 qua, 8, abbondante, anche da Franco. Allora ci deve essere, muovete, 30 a Sentino, pensa che io faccio il drone a Sighia Eddo, chi non nasce il drone a Sighia Teomi. Ma davvero io non lo sento, sta parlando. Ma neanche io. Riuscire bene a Sentino se mette dove c'è il faro, quindi. No, ho già parlato, va, è muto, fra. Già parlato, l'ho sentito quando ha attaccato Dio. Attenzione a Claudio. Già l'ho sentito, Aspetta. No, esatto, fatto non mi intende a me. Eugenio! Non risponde più, l'avete criticato. Non sarai mai stato nel centro storico di Sentino, quindi guarda lì. Non va a Curignale, Rugampa. C'è una bellissima radio, però... Ha visto quanto arriva da... Ce l'abbiamo vista oggi con il Sentino quanto arrivava. Segnali da arrivi a Sentino a me a te. Quando non va a battino con la 127 a Sentino arrivavano ben 20 a Sasse. Ehi, ma noi ci arriviamo a Sentino, non è quello il problema. Se non arriva a Sentino allora c'è un po' la radio. Ma devi arrivare pure e dove ti arrivi uno il baro. Ah, io c'è un problema al buio. Ui, ai, come sto... vabbè, comunque va tutti, lascia tutto come te a tutti i dì, usare quello che stai usando normalmente, tranquillo, sereno, guarda, il più 5 col 48 così, per un K miniatura, quindi usare quello tranquillamente, segnale 9.20, perciò io già ti lamenti, va bene. Ah, no, vabbè, già lo sai che la radio, ce l'ho, non è che è giusto per gioco questo, perché... essendo lontano dalla città non ha splatter, se no questo non lo puoi utilizzare, questa non è una radio da utilizzare in città. Io siccome non sono in città splatter qua non ne ho, quindi sfogo anche io da qua. In casa per dire dove ero prima la croce, questo assolutamente no, perché non si poteva utilizzare, tant'è vero che negli anni or sono ormai passati, la mia prima stazione era questa, questo baracchino con questo microfono senza linea retta, proprio vabbè il VV131, però sparava bene e mantovavo, non buon finito. Poi sono iniziate a crescere le antenne alla croce come funghi, se non parlavano i grandi modulatori non si riusciva a capire niente, perché uno abbatteva l'altro, e già lo sai che la croce poi sono nati tanti funghi. Sono nati frattaglioni molto, forse sono nati tutti antuna, erano meglio. Vabbè, a prescindere dalla tipologia di fungo. Lo so, erano frattaglioni, piccolini, però davano fastidio se erano attaccati a te, perché seppur non essendo numero uno in trasmissione, erano numero uno in abbattimento canale e in ricezione, quindi... Se uno ti vuole fare del male, è nel senso che nel male tra virgolette e non ti fa ascoltare, ciccio. No, prima a Natale o ai compleanni, vi regalavo a posto del cellulare, gli regalavo il barattino. Ma non lo so, ma vabbè, non lo so quello se succedeva così, però sai, nella greffa, quando noi abbiamo iniziato in due, per dire, no, ti ricordi qua, io e Gavino modulavamo spesso, poi in greffa, glielo prendo anche io, quindi io mi ricordo che il Milan che avevo preso io mi sembra costava 200, circa 200.000 lire, 220, adesso non mi ricordo, comunque superava 200.000 lire, e quindi c'era quello che faceva la forbicchina, si conservava i soldi per comprarsi il baracchino, l'FM500S, queste cose qua, per poter fare questo locale tra amici, capito, anche dopo che magari ci mollevamo dalla greffa. Io me lo ricordo, canti di una lampada che fa caldare, no, questa è una bella modulazione, tu che lo puoi usare lì, usalo questo baracchino, perché non ha niente da invidiare, ti ripeto, il segnale è buonissimo, la radio è buonissima, usalo tranquillamente, io ce l'ho dentro l'armadio, va nuovo nuovo, con cielo fa, c'ha il coso ancora nel frontalino, ogni volta che lo accendo, se non c'è Antonello va bene, ma se c'è Antonello su un altro canale si accende e si chiude la giura, quindi preferisco usare l'Elbex che manco lo sento Antonello, riesce benissimo come l'era 48 con l'MB più 5, ma anche col 4 esce bene, col Tana più 3 escono bene con le radio perché sono canalizzate, va bene. Troppo grappa, avanti bravo. Troppo. Io in macchina invece sì, avevo la FM500S e il CTE, quello con la rotellina sopra, quello prefissato, e sia una bomba sia, e come lineare avevo il B150, avevo, eppure non molto, il B150, non dava molto, però quasi 100 watt me li dava. Sì, io avevo invece questo baracchino qua, il microfono classico originale della Milan, il B300 che poi mi avevano cambiato, mi hanno regalato quello del 500, però il 300 secondo me andava meglio del 500. No, io gli miei grossi non li ho mai avuto, non me li ho mai comprato proprio, ma li ho anche per casa, sempre gli miei piccolini e basta, tanto per uscire un po' in più. Manco noi. Siamo pure a casa, un chilo, a parte che forse, non so se è quello di Benito o di Marco Lavagista, Gabibbo, ma cacchio, Marco Alfa Romeo. No, era quello di Marco Alfa Romeo che ne ha fatto poco ieri. E diciamo detto che te quattro abbiamo avuto, sì, davvero Romero la chiamava, la mano è Bartolomeo Fisiello, signor Ignare, ne aveva ragione. Una gli afferma le moglie di andare via da Ruzzi, tanto sono i baracchini, guarda che non sono i baracchini, no. Oh, un giorno ero lì all'emiciclo, sono passato, c'era Alessandro, la quella di giorno, c'era, e mi fa, oh qua vieni, faccio vedere una cosa, aperto lo sportello, siediti, mi sono seduto al posto di guida, se non cammina per i bambini, mi ci inviaggia un bug. Era bollente quel sedile da linea che c'era sotto. Sì, Alessandro, già voi l'ho conosciuto. Se non mi sbaglio, non so se... ma è ancora vivo, qua nulla sai. No, è morto lui e anche Giovanni, l'altro fratello. C'è solo Gesuino e Coso, l'altro morto, come si chiama? Gavino. Sì, è Gavino, sì. Capì. Giovanni e cosa sono morti, sì. E ogni tanto ho contatti, c'ho anche su WhatsApp con Antonio R20, ce l'ho capito, Antonio è stato operato la gola, fortunatamente parla abbastanza bene, non ha bisogno di niente, è stato operato in continente, in pressione c'è il figlio Alessandro che fa lo stesso lavoro, ci vediamo spesso lì stamattina al Trisbar, capito? Antonio R20, salutami. Avevo comprato la radio, io il 440 l'avevo comprato a lui io. cazzo, però non si è comportato benissimo, nel senso che mi ha fatto una cifra, poi quando sono andato a prenderlo me ne ha sparato un altro, 200.000 in più, comunque. L'ho presa perché la volevo. Alla radio, quando Antonio si è trasferito da Sassari a Lipunti, mi ha portato, perché tu hai preso tutta la linea completa, mi ha portato tutta la linea completa a me e l'ho usata per più di un anno. La usavo io, c'avevo anche il mio, ma usavo anche quella. E poi un giorno mi ha telefonato e mi ha detto, me la vendi la radio? E io ho detto, te la vendo la radio? Occupatene tu, io non posso stare... E infatti mi aveva telefonato, mi ha detto guarda che tu qua eri venuto, adesso non mi ricordo, o a casa sua eri andato a vedere la radio? No, a casa sua era, no, a casa sua, che a Lipunti. Esatto, e allora ho ragione io, infatti mi aveva detto, un giorno mi ha telefonato e mi ha detto da, atto a pigliarmi la roba, chi la giovinduda deve venire una persona, non me l'aveva detto chi era, me l'ha detto dopo che l'ha venduta. Infatti era venuto, si aveva preso tutto e se l'aveva portata lì punti. Ma scusa, ma Antonio Rezzetti era il tassista? Sì, sì. Allora già l'abbiamo conosciuto. Lo conosco Antonio. Oh, scusate che mi stanno chiamando, che devo andare a cena. Ci sentiamo. Alle prossime, dai. Ciao Claudio e ciao Tino. Buona prossima di serata. Va bene, ciao Fra, ciao. Buona cena, buona carica. Ciao Fra, ci sentiamo, dai. Ok, sì, beh Antonio, buonissimo rapporto da sempre, mai avuto un bar con Antonio, persona squisita, educata e sempre a morte. Sì, infatti mi aveva detto che l'aveva venduto, gli ho detto, guarda, vieni a vederla prima di portarla via, è venuto qua, l'ha vista, tutto, perfetta, se l'aveva portata via. Se l'avevo portata via e io mi sono usato il mio praticamente, mi ha detto la doveva vendere, però non l'ha detto a chi, l'ha detto dopo quando l'ho venduta, capito? Infatti tu mi avevi detto, tu stesso mi avevi detto che avevi comprato la linea completa di Antonio, e vabbè bei tempi, si poteva fare. Sì, aspetta che sto cercando un jack per collegare alla colonnina e cercare di escludere il parlascolto che voglio provare, ormai mi ha messo la cosa nell'orecchio, questo vedo a cacchio, no aspetta, puoi attaccare anche quella del 440 e attaccargliela, dai ti che così poi porto il cane, se no facciamo dopo la prova, tanto lo porto qua giù a fare la pipì, poverino che è attaccato, ha ciambato la radio, non me ne ero manco avvisato sul lutto. No, vai tranquillo, vai, là. Sono qua, io non c'è problema, tanto ho mangiato abbastanza a pranzo, io a cenare non c'ero. Allora, il porto cane poi te le chiamo, ok? Le mani in ascolto, magari entra qualche di un altro, vai. Va bene, c'è problema, ciao. Tino. Hola. Hola. 1, 2, 3, prova. Hola. 1, 2, 3, prova. Prova microfono. C'è nessuno? Non io volevo ascoltare tutto quanto per la cassa, ma sicuramente è così come stai dicendo tu, perché c'è la, come si dice, il parlascolta, c'è il parlascolta che è troppo amplificato, magari allora innesca, non ce la fa sopportare l'entrata dell'amplificazione del microfono. Sì, è così, tranquillo, perché lo fa anche col mio che è modificato, cioè parlascolta. Che non si può togliere, non si può neanche abbassare e quindi non posso usare nessun amplificato, capito? Vabbè, bisogna mettere una colonnina esterna per eliminare la cosa, la colonnina altoparlante sua, là. Va bene, è abbassato il segnale, è vero questo? Sì, stai usando il presidente adesso. Sì, il Lincoln. Sì, c'è sempre quella leggera saturazione, però abbastanza comprensibile, il segnale sia più basso. Non so. Vabbè, posso anche abbassare il watt, ma è all'interno, ora, guarda se è cambiato qualche cosa, là. Allora, il segnale adesso è come che sto utilizzando 2 watt, addirittura, È peggio, più abbassi è peggio, mettilo com'era che va bene. Va bene ma non va bene, bisogna fare quella volta. Aspetta. Ora. 5 watt. Vabbè, dai. Quando è disponibile, ogni tanto lo accendo anche questo. Sì, già. Per fare chiacchiere va bene anche questo. Ma il fatto che il 48 spettacolare con l'MVP5, come il mio, vedete, non aiutano, domani le facciamo le prove perché devo attaccare il cavo alimentazione, io tutto. Domani ti faccio sentire l'ARA 48 con l'MVP5, Tony a 1,5 lo stesso, perché abbiamo la stessa modulazione noi, non c'è niente da fare, capito? Io e tu Natalino per il cap e per i microfoni eravamo number one. Ed è la stessa modulazione, proprio perfetta, precisa, non ha beep, se non stai attento ti fotte col 440. Sì, questa è una radio che a me piace, tipicamente. Parlando mi piace come forma, come tutto, e poi ha le sue cose, ha tante di quelle cose che non le operiamo, però se ci dovessero servire, ci sono, capito? Al contrario dell'altra. E si conferma, sono d'accordissimo con te. Io te la sera parlavo con Franco del paese di Lincoln, perché io lo comprai allora da Massimiliano Archimede, modificato, due luci tutte blu, il connettore Kenwood, dove io usavo 60 e ho scoperto appunto che era una cannonata, stava a 30 watt perché Massimiliano aveva fatto una modifica all'interno, aveva 30 watt regolabili dall'esterno, con un potenziometro a parte messo dietro, sempre uguale a quello che c'erano davanti, che è una cosa carina. E niente, era una favola, l'aveva tirato anche di LC, perfetto, nuovo, no, lo pagai allora, era già in euro, 150 euro, ma era nuovo dentro la scatola. Mi ha dato a provare, l'ho provato, l'ho chiamato dopo un'ora, ho detto vieni a prenderti subito perché questa radio non esce più da qua. Poi mi si era attaccato la banana di Giampaolo, poverino, gliel'avevo dato, anche con l'adattatore e tutto, perché aveva venduto il 140 e c'era tutto l'MC60, ho detto tu sei una botte di ferro, 130 watt, era l'MC60 una cannonata, mica se gliel'hanno portato via, detto ci va via sempre in pegolà con gli scambi, e gliel'hanno portato via e chissà che fine ha fatto quella radio, ma era così bella, Tino, una cannonata. Guarda, io... Vabbè, domani vediamo un pochino perché devo scendere giù e mi sono accorto, poi vediamo. Ho intenzione di prendere un'altra radio completa di tutto, ti dicevo, similare a questa, che però, vabbè, tanto tempo, se ne fa meglio di casa. Devo mandare un messaggio a Antonio, chiedendo il moto picco. Un'altra radio, ancora ti ho mandato un boccale. Un'altra radio, ma è simile a quelle che hai? Aspetta che mi sta chiamando un tutto. Due. Vabbè, ma troppo. E allora? Che si narra? E nulla, stiamo facendo tutte le cose, sera, a presto. Certo, c'avevo il piede in conto, adesso di l'antenna. Riuscivo a ricevere un accidente nel 2009. Perché non mi è venuto in mente del PL, stavo già facendo un accidente, gli ho toccato in banca solo quello, che era male già il PL dell'antenna, e forse di staccare, adesso l'ho rifatto apposta. Il manuto per lunga però, cioè questo eco leggero, la modulazione è bella, chiara, pulita, no tu can nuda, quando esci bene Antonio, che te lo dico io, non tocca. Sto usando il coso, il 2009 sto usando, con DM1000, figurati. Bene, vado, bene, perfetto, leggero, c'è questa leggera amplificazione che l'eco in sottofondo, non lo buttare, lascialo così. Se quello va bene, boh, no, non c'ho, va bene, 3009, va bene con quel microfono, va bene con questa Delta, va bene anche con quel microfono, non tocca nulla, va bene. No, già l'ho facendo così. Nel che ho avuto parlato dei problemi più che altro, è che c'erano diverse commutazioni, capito, di campi, tra quello lì e l'87 c'è la regione di differenza, e quindi fischiava, se ti ricordi, comunque il di marino. Dopodiché mi ero in mattina, ho fatto le commutazioni e riusciva benissimo, contro la Delta era una bomba, perfetto, chiaro, anche col microfono amplificato Densé, capito? Adesso l'unica cosa è che mi voglio prendere il coso, un MP4 mi prendo, la signora Giovanna, e così sono a posto, per attacco allo IAS, appena si fa sentire il coso, l'uomo del monte, gli do il microfono e così gli faccio fare le quotazioni. Non penso che dovrebbe andare bene nello IAS. Antonè, il più 5 io avevo abbinato al 920 della IAESU, perché ti spiego, qui c'è la modulazione con molti bassi, la voce tua è con molti bassi, con l'MB più 5, no? C'ha più acuti e le puoi dare appena appena di tono, metti il tono a 1 come ci avevo io, adesso è molto meglio del più 4, non stare lì a guardare le 10 euro di differenza, prenditi il più 5 con i toni e poi lo regoliamo. Sì, prima devo fare un cavetto, prima mi devo fare il cavetto, non è così facile, no? Non è come fare il cavetto del cavolo, no? Quello. Lì ci sono i cavi come puoi dire al telefono e non mi fido io a farlo, una cosa del genere, è troppo incasinato la questione, capito? Potevano mettergli uno spinotto a coso, a 8, no, uno spinotto come il telefono, gli anni Bluetooth. Potevano mettere al limite uno spinotto dietro, come in certi apparati che hanno due attacchi. Fatelo fare da Marco che c'è la clipatrice, e vedi che ti fa un capolavoro, non tocca nulla a lui, lo dai a lui e lui ti fa il cavettino, le dai il connettore e ti fa il cavettino, bello, fatto, ordinato, lui c'è la clipatrice, sa dove mettere le mani, Antonè, perché altrimenti, come dici tu, diventa pericoloso, capito? E ti prendi il più 5, lo fai fare da Marco e vedrai che tu esci molto ma molto bene, tutti i baracchini li metti da parte, avanti ti. Un attimo, sono ancora al vocale, che c'è ancora che sarà là. Serve spazio. Che aspetta? Ma carità, ma come si non vuole, ma ora devi andare a rompere le palle alla gente. Aspetta. Quanto viene il 25-50 euro via? Ho aumentato l'ha detto Antonello, però già te lo fa lo sconto a te. Se vediamo un po', se me lo va 50 euro è bene, se no mi piglio chissà Delta, quello che sta vendendo Gio Maria, 50 euro dopo ti dici, è stato già il nuovo, e c'è Delta l'Ecomaster. Sì, per fattino, un messaggio mi hai mandato, non si sente una mazza, dai, io vorrei salutare che ho il piatto pronto a tavola, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Sì, ya, fai pure. Ma intanto ci vorrebbe essere Tino ancora con Antonio qua, eh? Sentiamo dopo. Sì, ya, d'accordo. Sì, però sai che quando parla voi sembra una donna vecchia della Medusa, va bene, adesso devo mandare una foto e basta. Mandagli le foto pornografiche, manda. Ebbè, come sarà qua? Sì, così. Era meglio se avevo avuto un lavoro, guarda, per stare così a casa buttato, perché si stavano già girando i così, non so cosa fare la sera. Sembro un maiale all'ingrasso, sembro. Fanculo, speriamo che si decida veloce questo capo di ufficio di collocamento a fare i corsi questo mese di aprile in modo che assumano, capito? A cosa diventa le birre non mi sbatte nulla, poi già mi arrangio. Ho capito, va adesso c'è la domanda di cittadinanza, così. L'ho già fatta. È già arrivato il messaggio da su, capito? Da Roma. C'è il numero del protocollo. No. Adesso il 15, io stavo guardando ieri su internet, il 15 erano le carte. Quindi bisogna andare a ritirare la lettera, andare alla posta e ritirare la carta. Poi ci sarà i negozi dove andare a spendere. Adesso vediamo, altri casi non succederà, perché cioè andare alla Copec a fare la spesa come 5 anni fa, manco ci vado, perché a pezzo pieno, hai capito, il POS funzionava, e invece quando c'erano gli sconti, hai capito, l'onfio, dicevo non funziona, invece funzionava, capito, allora andavo direttamente lì alla in farmacia, mi son preso 100 euro di roba, di farmaceutici, per casa, ho detto pigliate bene il culo, pigliava il culo per se prende il giudizio. Lo so. Senti un po', il DJ invece fino a quanto deve essere il massimo? Mi pare che era 6.000 e qualche cosa, ma tu puoi fare 6.000 qualcosa mi sembra, 6.000, adesso mi ricordo se 6.009, non mi ricordo, ma è già scaduto, è scaduto ieri, il 30 di marzo è scaduto. A meno che non lo rinnovino, se lo rinnovano te lo faccio sapere, così te lo fai anche tu. Vabbè, ma io sono un schizze, sono oscurato, quindi non credo che non lo dia. Vabbè, ma per fare i resi di come ha fatto Giovanna, i resi familiare, ti danno 500 euro ogni mese, ti danno, anzi tu più figli c'hai più ti danno, la verità, comunque sia, se c'è il bando di nuovo del re, si fa normale, ad aprire, ti fai quella domanda, te lo faccio sapere, e ti becchi i soldi ogni mese, l'unico rottura di balle, sai cosa dire, purtroppo, se devi andare lì hanno i crediti, hai capito, e fate la fila, è un casino. È un casino, no, perché se ti danno quella cifra lì, la fa culo, ci perdi un giorno, però è una bella cifretta da aggiungere, capito? Però bisogna vedere se mi spetta, perché essendo assicurato e avendo un reddito, non so quanto sia il reddito, capito? Da darti, poi quanto dura lo dico. Guarda, Giovanna ci ha messo, mio fratello, mio nipote, la figlia, quindi in pratica ha fatto un resi familiare e gli hanno dato, hai capito? E ritira 500 euro al mese, ritira. È una bella cifretta. Vabbè, ma lei sta lavorando, ha la busta paga, ha un reddito. Certo, c'è la busta paga, c'è il reddito, c'è anche la casa. Auguri, meglio per lei. Ho capito. E quello non si fa la domanda. Ancora non lo so. Via che mi informo. Quando vado lì a Monserrato te lo faccio sapere se c'è il resi familiare. Se c'è il resi familiare non fai altro che andare in via Zala, ti fai la domanda e immediatamente dopo un mese te lo danno, capito? Vabbè, se mi aspetta, certo che sì, sono 25 anni che non ho chiesto niente, ti puoi immaginare che ho sempre dato, se aspetta perché non prenderlo, per carità, va bene. E appunto per quello, sono di più che c'hai, e c'è anche l'auto, quindi c'è anche la macchina, vabbè, è stata al marito, ma non c'entra niente, a un certo punto. Adesso già mi informo, se c'è la domanda di resi familiare che puoi fare, te la fai immediatamente ad aprile. Ti presenti in via Zara, hai capito? E dici devo fare resi familiare. Se ti chiede l'assistenza sociale me c'è chiuso, non ne ho, non ho mai fatto domanda. Il primo che incontro mi dia lì, dici. Basta che mi accetti la domanda. A voi. chiedere non costa niente. Saluti da cosa a proposito, abbiamo visto a Radio Salute Europea, a Giovanna, da Sandrone, Giorgio. Salve Giorgiove. Sì, Albi. Ah, già andiamo visto a quello. Ma sembra quel figlio ha fatto Salve Giorgiove, figurati tu. Se lo vedo, ma con il coloso. Sei sempre brutto con la barba. Ecco gli occhiali. Sì. Salute, l'ho visto stamattina. È entrato l'altro giorno, qua c'è 10. Lo stavo fischiando, ho detto avanti il fischio. Ho detto, ma dalla voce l'ho conosciuto subito, immediatamente. Era Ralghiero a casa sua. Ho fatto una chiacchierata e poi basta, ho detto già mette la Mantova, che c'ha un'antenna di fortuna, ho detto mette la Mantova nuova, anche lui. Fatto diventare tutti gibitor. No, Sandro, vabbè, si è preso, deve fare casa, non lo sai, deve fare piano superiore. Quindi ha ordinato un traliccio per metterci anche la mano qua sotto, abbiamo la traliccia. Sì, vabbè, adesso sta operando, diciamo, un metro di altezza, l'altezza, torna avanti, ma quindi lui dice che non va come dovrebbe andare. Ehi, Santiago non va, non mi arriva, lui. Io so il vero, non ho problemi. Santiago non stava arrivando, io non vedi, c'è lui. Quindi non va bene, anche lo traliccio, arrivi anche Sassari, come arrivano tutti gli Alghero, quando parlava Pinangelo, poverino, l'Alghero arrivava a 9.15 a casa. L'Alghero è favoloso per me. Beh, mandato tirai anche su Capo Bugnetta. Oh, sì. Antonio, guarda, bravo ragazzo. No, ma che sono troppo piccolo e dorato. Deve fare un lavoro qua, facciamo in campagna lì, no? Che sta portando i lavoretti a un ragazzo che sta tenendo, quindi deve fargli lo scarico del lavandino, dell'alimentazione dell'acqua e quant'altro. E quindi mi stava spiegando un pochino cosa sarebbe meglio fare, chiedendomi qualche consiglio e come fare. Quindi è partito dal principio. Era voi che deve fare fino alla fine. Ma ormai mi devo ricordare di tenere la presa, così la porto o verrà a prendersela, non ti piace. Bene, sì, ma ti ho detto poco fa che l'audio che mi hai mandato non si sente niente. Davvero? Che ce l'ho detto? Ho tappato il microfono, che ce l'ho detto? Non riascolto. Io non lo sento. Ma non è che anche tu come me abbassi il volume involontariamente? Però sì, hai ragione perché non so perché forse ha fatto tornando là. Sì, che avrei messo il dito come faccio io qualche volta, non me ne accorgo, Massimiliano, non sente un cacchio. Va bene, Antonello. Lo sai che c'è su Cibitaur? Mi hanno appena fatto l'altro giorno, mi hanno detto, c'è la buona dei bagli di cosa, di Giuseppe Velato e Cecca. Sì, che buona, non è molto. Vabbè, no, io non... Ce l'ho come applicazione, ma non c'entro, non mi interessa. A me piace parlare alla radio, non salgo il telefono in mano, ma... In caso di emergenza, se devo andare fuori a qualche parte, qua si pure lo attivo, vai d'estate, vedi. Nel momento in cui sono attivo ancora con le radio, uso la radio, poi si vedrà, per il momento lasciamo tutto così com'è. Ma non entra sul CH, non entra sui canali di pizza, capito? Quindi, mi hanno detto l'altro giorno. Beh, tu ce lo conosci questo tipo qua? Aiutissimo. Ah, voglia che lo conosco, gli ho detto. Ai tempi che fu, l'ho detto, poveraccio, gli ho detto. A Trattamo l'avevano fatto l'uovo, gli hanno messo gli occhiali neri, che aveva fatto le fotografie, una coppietta, in America. L'avevo sentito, però, cose così erano, beh. Vabbè. Aspetta. Ah, no, se no. Non ci entra la potenza, la voce l'ho levata con 430, adesso l'ho rimessa a 20 watt. Va bene, Tino, va bene. Hai sentito? Come arrivi dunque ancora? No. Vabbè, io te l'ho mandato, c'è un baffo. Quando arriverà il secondo baffo, te lo baffi. Quando arriva il secondo baffo, vediamo. Si è arrivato, eccolo qua, si è arrivato adesso. Sì, l'ho visto. Ascolta, ascolta, che interessante. Brava. Quindi, Antonè, come sei messo? Non ricontare? No, no. Sono in verticale, non sono orizzontale ancora. Andavo a mettere alle 8, anche alle 8, alle 7 e mezzo e mezzo. Di solito mi ero messo a mezzanotte, 11 e mezzo a mezzanotte io. Quello là lì, anche perché capito, Giampiero è stato mandato all'attacco e quindi, se hai capito, sono diventato un po' stressato con lui a un certo punto. E quindi cioè, mi era passato lo stesso, adesso mi stato tornando. Che telefona ogni 4 ore, 20, quando sparisce Giovanna, prende il telefono a girarmi le balle e andare a Vallo, quando invece non c'ha niente, capito? E quindi è così. Stress e basta, guarda, non vedo l'ora di andare a lavorare, manco solo per i fatti miei, quando vengo a casa, piglio, mi sento l'uomo, come facciamo una volta, va a fanculo, non stare alle cose di casa, per carità, non stai mai tranquillo, guarda, c'è sempre da non pettire le balle con... Purtroppo, il fatto di quelle condizioni non ci posso fare un cazzo, tocca a me. Anche se c'è la bandante, rompe le balle sempre a me. No, scusa, c'è la bandante deve fare il suo lavoro, cosa vuol dire? E poi vabbè, fratello, perché faccia addosso. Ho visto che ha scritto qualche cosa, che gli è mancata la bevanda, quindi evita anche tu di stare lì a comprare. E infatti, il vizio non l'ho messo io, gliel'ha messo mia sorella, ho preso anche a fumare, quindi è capito. Siamo trovati come prima di essere ricoverato lì a Salgesta, tale uguale. E quello è lo stress per me. Gli ho detto lui, se continui così gli ho detto mettici proprio a Tiesi, lì non vedi né sigarette né bevanda, il discorso è quello. Siccome lui è su Facebook, e già legge le cose, perché c'è anche lui, capito? Un giorno mi sembra che ha scritto, aiutatemi, c'è una presa nel vicino al letto, la 80, che passa attaccata a me, mi dà la scossa, cazzo, ma questo è scemo, gli ho detto. C'è quello detto che chi legge una cosa del genere, gli ho detto, mi manda i carabinieri a casa, gli ho detto. No, vabbè, io non mi ricordo di averlo conosciuto, quindi non so neanche, però conoscendo il nome e cognome, mi immagino che sia lui, dai. Dove sta? Così è, così lo devi tenere per il momento. Scusa che è un boccato. C'è la foto, c'è già lui comunque, già. Il nome e cognome è suo, già c'è la foto. Non ti preoccupare, già è lui. Un attimo, Antonio, sì. E ancora che sono andato a prendermi una sigaretta. Qualcosa stavo dicendo? No, stavo parlando di mio fratello che sta tornando a essere come te prima. Perché gli ha dato l'abitudine di Giovanna di, capito, una birra la mattina e una birra la sera, e quindi mi sta scassando i coglioni a me adesso, capito? Quindi non ha giocato le trovamo di prima, noi sono uscito e non ci voglio neanche più rientrare, perché era arrivato un giocatore di Cudi a quelli vedi che non capivo più niente. Devo pedire una birra massimo due mattine e cazzo già sgronzo e non mi va di nuovo di rientrarci, grazie a Dio. Sto bene, ma non bevo la mattina, me la bevo come si deve, non voglio avere problemi di nulla. Si vuole ammazzare, si ammazzi da solo, a un certo punto. Io non devo stare a presso alle feste di Gesù, vabbè, io già mi conosco, sono una persona sensibile, come carattere anche dolce. Cioè buono, perché è dolce, no? Dolce per conto di dire, buono, quindi sto cercando di evitare di scenderci qua. Ieri fino alle 10:30 mi ha telefonato, di notte. Figurati tu, perché ma c'è l'abbandante. Sta sessione andata a quella, questa volta la facevi di te. E quindi niente. Fatemi seduti su a casa, sono sceso giù, di solito scendevo alle 8 a trovarlo per dire come stava, dargli una mano a cambiarlo per dire eccetera eccetera. Adesso non saranno. Quando scendo giù voleva caffè la mattina, no, e gli ho detto, basta, il vizio te lo devo togliere, per il bene suo, poi quando sarà più male ce lo metterò a corso, in medicina, se ne sottengo, sono attesi, almeno è lontano e vede la roba col binocolo. Ma cavolo, queste cose, la video di tua sorella, non si fanno, lui è in cura e deve rispettare la cura per star bene. Io lì la mattina in birra a pranzo, la mattina in birra a cena, non deve bere l'accidenti, hai capito? Di discorsi, è chiaro che poi non guarisce più e continua a riprendere il ritmo che riprendeva prima, che aveva prima. Vedete voi, Antonio, non so cosa dirti. Io lo so, il ritmo ormai l'ha già preso, ormai non riesce più. Cosa riesce? Sta facendo la pepitola rossa, quindi sta facendo l'emoglobina. L'emoglobina in pratica sarebbe il sangue, mentre il fegato non sta più lavorando e quindi siamo tornati come te prima. Prima pesava 70 kg, sai quanto li pesava? Minimo li pesa 100, te lo sto dicendo. Allora, diretta Giovanni, metto la dieta. Per forza, perché se no entra la calzina non ci sta. Gli ho preso l'elevatore, ma ti ho fatto domanda per l'elevatore, la verità, ma la paura mia sai cos'è? Se lo metto in carrozzina, con quella carrozzina elettronica che tu prendi, c'è il joystick e lui va dove cavolo di pare piace, capace che apre la porta, esca e me lo provocato del fornitore, sono tranquillo bevendo, fumando. Io, vabbè, guarda che ti avevi fatto il baffo. Io la giudico. Sì, va bene così, dai. Antone, mi dispiace, tu non hai strumentazione, cazzo, ti avrei dato un lavoro da fare. No, non ho strumentazione, e manco vista c'ho più. Figurati tu. Guarda, sto facendo solamente i baracchini, solo agli amici quelli semplici, cioè mutazioni di cose, modifiche per i canali, però altre cose non posso farle, capito? L'unico Vittorio c'ha la strumentazione e c'ha il salvatore quelli ad aria calda, solo così io ormai sono arrivato al patecciolo, non spendo 5 milioni, 3.000 euro per comprarmi l'apparecchiatura per cosa, per fare 5-6 baracchini all'anno, non ci penso più nemmeno. A Giovinito io, se faccio solamente per gli amici, se riesco, c'è roba che posso fare, se no pazienza. Lo so, sai anche che io non chiedo mai gratis, io ti ho sempre chiesto, si può fare questo? Sì, farlo, poi mi dici quant'è, meglio lo sai. No, è che volevo mettere in ordine questa radio, quindi considerato che sia Claudio che altra gente mi ha detto che hanno una saturazione, quindi sicuramente questa radio tu non la conosci, però almeno l'ho già data così, già toccata più che altro, e quindi volevo metterla in ordine, capito? Perché volevo utilizzare un certo microfono con questa radio qua, siccome l'ho provato adesso una cagata, volevo più che altro metterla in allineamento, capito? Va bene, no, è giusto il discorso che hai fatto, è inutile che ti compri la strumentazione, poi vabbè, sei vecchio ormai, sei vecchio, puoi collegare solo quattro figli e basta. Vabbè, Linko comunque c'ha le cose separate, c'ha l'unica cosa di buono che c'ha il potenziometro della potenza che era 30 watts e qualche cosa, hai capito? Poi c'è la potenza per l'FM che è separata, poi c'è l'LC, l'MC, che sono uno nella scala di sotto e l'altro nella scala di sotto, perché io l'ho smontato, uno di quelli lì. E la tolleranza che gli puoi dare, cioè massimo 12 watt, di più non gli puoi dare l'uscita, perché sennò va in saturazione, perché era già capitato, ne avevo fatto uno io di quei baracchini lì, e l'ho avuto, è un po' complicato la verità, però l'unica cosa di bello che c'è è tipo la 30 watt. Però c'è quel problema che secondo governamenti va in saturazione, il discorso è quello. Quindi la tolleranza massima sono 10-12 watt, non di più. Anche se tira fuori 30, per dire. Poi c'è l'LC, l'MC, che la fesseria c'è anche scritto, se tu guardi lo stampato, c'è scritto LDC, MC, PWRM, PWRFM. Se l'apri, poi c'è la scheda pratica di sopra, poi c'è quella di sotto, in pratica, perché me lo ricordo, è fatto bene come baracchina, veramente ha fatto bene. Sì, ma infatti a me piace tanto, anche se è piccolino, nel senso che già lo sai, è appena più grande del 48, però insomma, se fosse stato più massiccio è più bello. No, mi dà fastidio di una cosa, che non posso attaccare nessun tipo di cosa, di un 747 per dire, un M200, perché già va in saturazione così, quindi figuriamoci se no. Vorrei portarlo, non dico allo stato originale, però avere la possibilità di abbassare il watt come ti dicevo tu, perché so. Sembra così, io sto utilizzando 5 watt ed è già in saturazione. Guarda, aspetta, ti dico quanti watt arriva questo qua. Arriva, lo abbasso, ora, arriva a 25, quasi 30 watt, perché va a VTT, allucinante. Ma è in saturazione, quindi è inutile che tu hai tanti watt, la radio sulla mano, no? Non... Anzi, se vuoi... posso anche abbassare di più, questo a meno di 5 watt sto scendo ora, Però la saturazione è strana, a meno che non c'hai l'AMC, l'LC che è stato toccato, al contrario, allora tende a saturare, capito? Antonello, a cavallo Donato non guardare in bocca, si può dire e si presume che sia sempre così. A me me l'hanno regalato, devo essere sincero, me l'hanno regalato e mi hanno detto sì, è fatto da controllare perché esce 30 watt, però esce male da là. Quindi è una cosa che, nonostante tutto che me l'hanno regalato, mi hanno detto il difetto che aveva, capito? Chi l'ha fatto sicuramente non era in grado di saperlo fare, e quindi dal giorno sono così. E niente, Claudio mi ha fatto la radio ascoltando, cercando di abbinare questo microfono nel miglior modo possibile, pur dicendomi che è sempre un pizzico di saturazione, ce l'ha. Sì, quello sì, ce l'ha. Come regolata la MC e l'IC e basta, solo che devi in pratica metterti dei cacciaviti induttivi, anzi un cacciavite induttivo per esattezza, ti metti un baracchino a fianco senza antenna, scritti, e ti regoli quei due trim, quando parli con quel microfono lì ti metti a 10 watt, dagli solamente 10 watt l'ingresso, lo diminuisci siccome c'è il trim come si chiama all'interno dello stampato, lo diminuisci massimo 10, dopodiché ti metti un paio di cuffie e ti regoli l'MC e l'LC, vedrai che tu puoi fare anche tu e la fesseria a farlo. Un attimo che la batta poi. Del presidente Lincoln sto parlando, sì, esatto, c'è quel questo tipo di cose. Ci hanno prestampato e addirittura c'ha la potenza MFM regolabile, che mi ricordi. Perché ho la modificata conservata per poter metterci il microfono amplificato. C'era un bel passo da fare. C'era. E quindi basta, per non fischiare, perché di solito quando quel baracchino è nato in pratica con microfono normale, se li metti amplificato bisogna fare un bypass, c'è un integrato, bisogna fare dei punti, tutto lì. Benissimo, lo ricordo perfettamente, infatti parlavo proprio con Franco oggi di questa cosa, che c'ha delle modifiche all'interno che sono pazzesche. Quindi riesce ad avere un bellissimo baracchino con un bel microfono da tavolo e va molto bene. Sì, ne parlavo con Franco proprio oggi. Però ho detto, io non l'ho visto fare, però non mi interessa perché io non ne capisco niente. Non ce le metto le mani, io capito. Però ho detto, chi lo sa fare, lo fai modificare, c'hai un bellissimo baracchino, perché c'è un sacco di canali, c'è un sacco di cose, è bello, un bel baracchino, capito? Vabbè. Ok, sono le 9, e sugar, mamma mia quanto è presto, mamma mia, ho mangiato il piatto di risotto e ho fatto l'aria, basta, un bicchiere d'acqua, una frutta, stasera così. Va bene così, anche perché domani sarà un'altra giornata di quelle da tricche e tracche. Va bene. Finito e tiro al telefono. No, tiro ancora al telefono. Eh sì, ho uscito Marco l'altro giorno, l'ho entrato a salutare, ma con questa voce oltretomba, cazzo, mamma mia, sto ragazzo. Ogni tanto si abbatte, deve essere non sta di nuovo bene. Come ci vuole la brittella? Anche secondo me non ci vuole la brittella, beh. Si può dire appena rientrato, è stata a farmi giù la Porto Torres, ma era fredda l'aria, no, ho mangiato un gelato, una passeggiata e poi a casa. Va bene. Come mai sei a casa, non sei da Marina? La domenica vedi a casa. No, non sapevo. Va bene. Lì c'è molto pompa. Anche Tino c'è, però al telefono. Ciao Luca, è barrato. Ragazza, c'è da Tino. Comunque ciao, anche a Tino. Ma anche Marco Scorpio c'è? No. No, ok, dai. C'è da Tino contro le crocchelle al cazzo. Facci, con comodo non c'è problema. Vabbè, sì, mi sono visto, quando è? Non ricordo se giovedì o venerdì con Marino, che ti ricordo che ti ho detto me lo pagare del materiale. E niente, me l'ha detto che si è preso il cavalletto e tutto. E niente. Va bene. Cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, non mi ricordo più. Vabbè, non me la metto. Gava. Adesso vediamo domani. Secondo me, chiedo adesso a Antonello quanto mi dà le BP5. Vediamo quanto mi spara. Se mi spara più di 50 euro mi piglio in salerno, se no se la piglia in Napoli. E piglio le BP5, adesso vediamo un pochettino. Prova Antonè, prova, se no mi pare ne ha una Massimiliano anche in vendita. Non so, nuovo, in buone condizioni, usato però in buone condizioni. Fammi sapere quanto ti fa, magari lo dice Massimiliano quanto te lo dà. Oh, cosa? Figato sono di Gian Maria, capito? C'è una 3. Il Salerno Pro è l'unico che va bene. In quel baracchino che c'è a Tino, perché io l'ho provato e funzionava benissimo. Adesso mi viene in mente, mi salta proprio quello grigio, che in pratica imprimi lì, come si chiama, la rimane rettangolare. Riusciva benissimo, se ti ricordi bene c'era Fabietto, ti ricordi Fabietto quello che è venuto vicino a te? Che c'era lo stesso palato con il Salerno Pro. Sì, che me lo ricordo, sì. Sì, va bene tutti, Antonio, io ho provato il più 4, il più 5, il Tarno più 3, il Salerno, lo Schuller, l'SBE, a dire uno che non andava bene nei baracchini che usavo. 87, iPhone 2, il Ranger, vogliamo provare, il Superstar, il 360, ho provati tutti, l'avevano 48, tutti i microfoni che ho attaccato a tutti i baracchini vanno benissimo, sono microfoni che si adeguano, poi il 4 e il 5 della ZG per me sono qualità prezzo, perché costano una coglionata rispetto ad altri microfoni. Secondo il baracchino che lo metti funzionano benissimo, alla grande. Sì, sì, l'ho avuto quella, l'MP5 l'ho avuto, anche il più 4, se ti ricordo avevo attaccato a quel Kevudu che in pratica stavo usando l'altro giorno, capito? Cioè, quello che stavo usando l'altro giorno, che ha fatto un giro del cosa, ha fatto del grode, ha fatto quell'apparecchio lì. L'ho riconosciuto, sai perché? Perché c'era un grattetto nel display, dove c'è il display c'era un grattetto opaco, cioè l'ho riconosciuto per quello che era, quello che avevo in pratica io, e poi io avevo venduto. Infatti c'ho il manuale istruzioni qua, e addirittura anche la, come si dice, quello che ti danno quando lo compri, è nuovo, certificato di garanzia. Quindi mi ricordo che quel tipo di apparato qui, lì, con il MB4, che poi infatti con il microfono l'avevo venduto a Franco California, modificato naturalmente, avevo cambiato la capsa, usciva benissimo con quelle, con quel 140. Io i microfoni dati tutti, Salerta, MB4, c'è l'unico che mi ha fatto bene il MB4, la verità, perché devo cambiare la capsula, però il MB5 c'ha i tuni e quindi riesco con la tipica che ho io, brutta, riesco a regolarmi, invece Salerta è quello che sta meglio, la verità, perché ho avuto il Salerta, quello di Mario Manso, e poi l'MC4, quello che ho io, e poi Mario Manso, adesso con le appalicature sono sicuro che farò la fine, che figa ce le buttano nel cassavetto della Mondezza se continua così. Peggio per lui, non è che gli posso andare io sopra un tetto suo, da solo, come un cane, a installare le antenne, a raso culo, ma così usciamo di tutto. Io gli ho detto, se vuoi attestare l'antenna, gli ho detto, sai, tuo figlio insieme a me, un altro paio di amici suoi, perché gli ho detto, il palo è pesante, ma cosa. Poi gli ho detto, l'antenna è altrettanza. Quindi ho detto, io l'unica cosa che ti posso fare è installarti, però ho detto, non mi dire, dopo un mese o sei mesi che ti hai scesa l'antenna, l'avvento, e sono venuti i pompieri. Lì l'antenna era nuova, non c'era nulla, l'unica, sai cosa, quando l'ho vista, ho detto, qui a te, ho detto, non è che ti è caduta dei pompieri, ti hanno staccato, ha detto, quelli del palazzo, ho detto. Paolo e tutto, ti hanno toccato tutti i radiali. Il discorso è quello, perché li avevano proprio toccati i radiali, uno per uno. Perché i pompieri di solito quando vanno a operare non ti lasciano lo stilo tutto intero e te lo mettono dentro all'interno della cabina dell'ascensore, hai capito? E il palo te lo mettono a fianco nel muro, quindi vuol dire che qualche cosa gli è successo a lui. Qualche punti di amare, qualche condomino è stato a sopra e mi ha stracciato tutto. Addirittura, aspetta un secondo a te. Così è, addirittura. Ho visto io l'antenna, la mantova, la mantova di 6 mesi, si trova così, i radiali, che sta calendo, ma sta scherzando. Non ci credo, manco se me lo raccontano. Davvero. Va bene. Questa è un'altra tipologia di radio, Qual è? La solita con lo stesso microfono. Sta scendo bene. Non devo dare una a mezzo di radio. Sto aspettando che mi telefoni quella persona per darmela a casa. Una di quelle dei camitami. Non so se a valvole, se a transito, e quindi vado a ritirarmi. Adesso mi ha portato la magnetica con l'antenna VU in pratica, però a adesso questi giorni qui vorrei portare il resto. No, aspetta, diciamo che come la radio sembra che va, vabbè. Sì, sta a voglia che sta andando, perfetto. Sì, sto guardando su un video che sto dicendo. Questa gente che mi ha detto uno spiedo con la base in sughero tutta la sarda, che ecco il barbaggio. Non capivo che la verità è che non vedo più nessuno cucinare. Una volta faceva la gara perché si cucinava di più, cazzo. Pocetti, agnelli, sardine, roba del genere, cazzo. Poi, anzi no, c'è il coso, c'è Tore che invece va ogni notte, si fa i filmati ogni notte quando va in quella, non so se è un night, cosa diavolo sia, va a ballare, da quando l'ha morato la moglie. Chi è quello che è entrato? Io, No, boh, sento un altro sciocco, davvero, chi... ah, Luca è Luca. Io. La vuoi chiamare Luca? Vabbè. È forte, che dura, anche Luca esce bene. Esce bene anche Lucariello. Sì, sì, esce bene. Cosa stai utilizzando, Luca? Luca sta usando il Typhoon. Sta usando il Typhoon. Io c'ho il Typhoon 2 e lui c'ha il Typhoon. Con la MBP5. Fa una bomba, Sì, sì, ma te l'ho detto, te l'ho appena detto. Ma io lo so, li ho provati tutti. Io il Typhoon 2 che ho io per poter andare a trasmissione mi già preso la colpi, cioè qualche falso contatto, come parlavo con Daniele, siccome è modificato, è stato tantissimo, non all'umidità ma dentro l'armadio, sai, col caldo, magari si è incollato relè, qualcosa, quindi mi già preso la colpi, non lo sto usando, ma se io ti faccio sentire quella radio che la manderò dal Mino a Boro e me la faccio mettere a posto. Siete la sentite con la radio, con la MBP5, una voce strepitosa, poi la mia, figurati, vanno bene, vanno tutti bene, Pluto, il Typhoon, il Typhoon 2, tutti, vanno bene tutti, vanno bene, il Galaxy, quello veicolare anche, vanno bene. Vanno bene tutti, anche il Cobra, Galaxy lo stesso, hai visto quanto esce bene col Tana più 3? Vanno bene tutti, quindi alla fine siamo tutti radi, io perché ce le ho il 430 e il 440, sono eterni per me, baracchini, se dovessi togliere questi e mettere un baracchino per dire anche in campagna con una bella antenna, con qualsiasi baracchino che metto, un linearettino da 60-70 watt, un bel microfono, chi è che ti può dire niente? Per fare due chiacchiere va più che bene, però sì, io queste mi trovo bene con queste, no? Non c'è niente da fare. Certo, no, vabbè. È giusto per gioco qua, non è che... sì, io mi ho tolto la base, le due basi che ha fatto Giulio, io una l'ho tolta, l'ho già portata via, quindi è una base solo, se avessi avuto l'altra, infatti mi ho modificato anche l'appoggio del computer che mi ha ordinato il carretto lungo proprio Luca, perché ho spostato il computer tutto su una base, quindi ho ristretto, ho messo le radio essenziali perché mi serve il computer, capito? Ma l'altra base l'ho tolta, se avessi avuto quella base libera che era 1,60 x 90 allora lì avrei fatto tutto nuovamente, una base solo baracchini da provare, da usare, non ho bugato tutto, perché non potevo manco aprire la finestra, capito? Perciò, se ben ti ricordo era fatto a L, adesso è solo una parete e basta, ho finito i giochi. Infatti mi abbiamo ricatto tutta piena di roba che, siccome ho finito l'altro giorno di testarli e provarli, devo portarla via. C'è roba mia e roba che non è mia. Vabbè. Lucariello! No, Luca, cioè, sono entrato io. Ehi, Alcra. No, aspetta che stavo scaricando. Ciao, Tino. Il programma, adesso parliamo via del computer. scaricato Windows 10 là, che mi serve, però io mi tengo Windows 7 ancora, finché funziona, mi serve per lavoro, capito? Capito che ho, va bene, va bene. No, già c'è Luca, Tino, io a te. No, vabbè, Luca arriva un po' più forte di te. Arriva un po' più forte di te, però come modulazione siete tutti e due KK. Beh, ce l'hai attaccato. Ciao Luca. Sì, vabbè, dai, chi più chi meno, va bene. Interessante farci due chiacchiere, dai. Poi del resto, poco ce ne può fregare. A me mi sembrava Marco, proprio sono rincoglionito. Ma chi io? Sentivo Pomponio parlare, Claudio no, all'inizio l'ho acceso. Mi sembrava Marco, e tutti, sicuramente eri tu che non lo stavi parlando. Andare. No, no, siamo solo noi. Non si è sentito nessuno della banda Vintage. Va bene, va bene. E vabbè, tico, è così e basta. Se non appassionato di quelle radio, è capace di dare il cuore. Io ne ho comprato, abbiamo preso una da Gigi, una da 48, che è veramente eccezionale. Ho parlato lo stesso una barca di soldi, poi ne avevo preso un altro, poi uno proprio mi da Massimiliano, basta, boh, finito, non ho speso più soldi in quelle radio modificate, tanto non le uso, vado a mettere lì e poi a guastarsi come il telefono, che adesso vediamo che cosa cazzo c'ha, boh, no, non gira come deve girare, anche quello è costato una barca di soldi, vabbè, avanti Antonio. Eia, ho messo la pinza in corso al fornetto, adesso che sto cucinando la Simona, ho fatto la pizza mozzarella, prosciutto e roba del genere, è buon gusto, ma di quello del tangolare, quindi quelle morbide, le morbide. Quello dello spi sono buone quelle. Quello dello spi funziona, lì ci metto la pasta prosciutto, salsiccia. Ci ho messo la salsiccia, quella a Napoli ci ho messo. E il cane, cazzo, è poco di piace al cane, quando vede la salsiccia. È come il coniglio, ragazzi. E così non mi piace il cane. Io quando mangio, anche sto mangiando un pezzettino di pane, il mio si siede vicino a me e aspetta di venire un pezzo, ma non ne ero, perché già pesa 40 kg. Prima faceva due passi, ne sta facendo uno. Ogni volta che esce sempre un raffanno, è un cane diverso. Volevo tenere il regime, se no adesso mi inizio al calvario, infatti non volevo di portarlo in campagna, poverino, perché anni fa ha sofferto le pene dell'inferno con quel caldo a Sassari, quando usciva camminava solo dove c'era fresco, non si spostava dal fresco, a chi li lavava ne imparava, capito? Un cane molto grosso, quindi è meglio che stia a regime il tuo piccolino e va bene così. Vabbè. Avanti ti. Va bene, ma sto guardando una cosa al computer che poi lasciamo già attesa un tech, che ogni tanto sono questi qua a caso si tirano colpi alle palle, cazzo, questi cinesi, boh, allucinante, e fanno le gare di queste, questo che si tira il tronco addirittura, tipo un tronco con l'altalena, cazzo, dove smattere in mezzo alle palle, boh, che cacchio di gusto hanno? Giochisti sono, e quello sai che gioco è? Magari più coglioni. Fa che ce l'ha più buffi. Allucinante. Sta caricando ancora quello che abbiamo mandato, mi adesso è arrivato, sperate. Adesso devo fare Clara, siccome c'è uno di quei compressori per poter aspirare lo stagno, no? Di quelli grandi, senza le basi, di quelli antichi. Ci siamo una volta con lo saldatore 24 volte, adesso lo modifico e ci metto l'A87 vento, ci metto con l'alimentatore, con la ventola, così faccio l'apparecchio e tutte le basi, cazzo, lo faccio. Che cosa, scusa Tomè? Ho detto che c'ho di quei, come si dice, aspiratori di distanza. compagno? Grande, te ricordi che in pratica c'era il salvatore anche completo, in pratica grande con le mani. Adesso gli faccio la forma del taglio dell'887 e ci metto l'887 di azzazza dentro, con l'alimentatore, e gli faccio una parricosta sulle base. Metto uno di quegli alimentatori cinesi all'interno e mi sono fatto tutte le basi, gli faccio fare le scritte nuove e ci metto, vado 87 e ci metto. Sergio Carugio, ho schiacciato le 60, ho detto ma non sto uscendo, invece avrà distrutto alle 4.30. Ce li sono tutti e cinque vicini, per forza. Aspetta che vado a controllare la pizza, non sai che mi si incendia. Sì, no, sono la luce, cortesia accesa. Ciao, mi entrano le zinzole. Ho fatto le zanzariere, insomma, e fuori, domani lo devo rimontare. C'è la finestra aperta, c'è un caldo qua, cazzo, blu. Ho schiacciato, siccome ho spento il 4.30, ho schiacciato quello del 4.30 alle 1.60, invece la radio è sudata. Va bene, dai. Ok. Eccomi, dai. Ero al telefono, faccio oggi, non c'è che stare, sembro poi. Antonello. E Antonello è andato a vedere la pizza, se è cotta. Ah, sta facendo la pizza, cazzo sai che oggi ho mangiato, vabbè, sto facendo un po' di Ramadan durante l'arco della settimana, perché stavo esagerando, e oggi però ho mangiato la domenica, ma la concedo, cazzo, che ho fatto lo so. Lo fa anche a me, capito, lo fa anche a me, perché anch'io durante la settimana cerco di mangiare il meno possibile. Con la scusa sono impegnato in cantiere, eccetera, capito? E quindi il meno possibile, soprattutto non c'è caldo. Però il fine settimana me lo concedo anch'io, e quando esagero mi rimane tutto sullo stomaco, perché adesso è talmente l'abitudine a mangiare poco, mangi un primo leggero o mangi un secondo leggero, mangi una bella insalatona, capito? Oppure anche un bel trancio di pizza, una cosa così, però non primo, secondo, mamma mia. E quindi lo fa anche a me, vuol dire che sta iniziando a prendere abitudine lo stomaco a mangiare meno. Sì, ma poi mamma è sempre quella che è sempre indecisa, no, ma cosa faccio? Ieri mi ha detto, cosa dici ti? Facciamo un po' di calamari e seppie fritte. Sì, siamo chiedi. Allora ho preso dalla frigo e ne ho pescato un paio, ho detto te cucina anche queste, così almeno metti tutto assieme. E l'abbondanza, cazzo, poi cosa ha fatto? Siccome così non bastava, allora ha cucinato anche un vassoio di, a parte la pasta con le cozze, ha cucinato anche, cazzo già le zanzare ci sono, ha cucinato anche una saffata di cacchio si chiama, di aletti di pollo, cazzo, è una soffatta di quaglie. Altro, ho detto, no, non c'è altro, cazzo, ma il ristorante è bello. Sì, già riconosco i tuoi genitori, già lo gioco, sono così. Ma non lo stesso, io fortunatamente sto cercando di andarci il meno possibile, capito? Perché sennò è andare tutti i giorni, campagna, e quando vai lì, si aggrega chi d'altro, e ti metti a fare una cosa, arriva l'ora di pranzo, io ho detto, aspetta, abbiamo cucinato, rimani qua, così, va bene, e quindi sto evitando di andarci, e quindi, insomma, sto cercando anch'io, oggi a cena, figurati, l'aria ha fatto la paella. Ho mangiato un bel piatto, però il riso condito con tutte le verdure, le cose, il pesce, insomma, non è che fa così male. A pranzo lo stesso, il primo, la carne, l'insalata, un bel bicchierotto di vino, stanotte non ho toccato niente, acqua. Bisogna stare attenti, dai. Ormai non siamo più ragazzini, io c'era un periodo, anche l'acqua mi faceva ingrassare. Sì, no, vabbè, l'acqua, come si suol dire, bisogna berne almeno 2 litri, se non 3 litri al giorno. il minimo credo. Poi, vabbè, l'acqua già la fischiava. Ehi, usci e alzare a te. No, l'acqua ne bevo un bello. Ehi, assolutamente, io quando lavoravo avevo la borsa a frigo con due bottiglie da 1,5 litri e quando rientravo non ce n'era assolutamente, solo acqua, io lavoro bene, solo acqua, caffè la mattina, bella colazione e poi acqua, tutta la riera, i colleghi a volte, a volte un bicchiere di birra, non li voglio, valvetta per voi, mangiamo il panino, io la mia bottiglietta d'acqua, niente da fare, acqua ne bevo un bel. Ho visto anche l'altro giorno, non ci riesco, non mi sembra la doppia, un bel bicchiere di vino buono mi piace a pranzo, fuori pasto non mi interessa, solo a pranzo, con la cena, in compagnia, solo vino rosso, e buco. Per il resto qui è finita la bacchia. Vabbè. No, io a me piace troppo mangiare, è l'unica cosa che ci rimane per adesso, poi solo che sono dei piedi, sempre bicchio, poi cosa vuoi fare, bisogna contenerci adesso qua, che poi in realtà avanti non verrai più, ne conosco un esempio lampante, io lo sai. È difficile, purtroppo così. No, io già mi ho visto, non ne ho di sporgenze grandi, non ne ho, sono così di costituzione, rimango così e vabbè, però me le voglio limitare, perché se io, come fanno tanti altri, no? Quando vai in pensione o quando sei libero, eccetera, ti serve 30 arrivare, stai tutta la dieta in mano e hai fatto una botte, ma no, non una botte. Una botte a botte, capito? Perché assimila moltissimo, poi tu considera che statisticamente è provato che un bicchiere di vino fuori pasto è come che tu ti mangi un piatto di pasta a pranzo, la stessa, ma un piatto di pasta da 100 grammi, è micidiale il vino fuori pasto, sì, per quello io lascio perdere, vado a casa, non esco, se devo andare a trovare un amico mi bevo una cosa veloce, che non mi possa fermare, e boh, però, mamma mia come sto, assolutamente no, perché sennò manco io già soffro di mal di schiena, ho la cervicale a pezzi, assolutamente non è cosa per me, vabbè, lasciamo perdere. Motopompa, mangiate a te la pizza, ho da un capo durante un volo, ti sta a posto Simone. La giusti, ma un capo durante un volo, a posto Simone. Ma, è successo un incidente, sa se le taglia la strada, una volta conducente muore. Sì, ieri, a che ora? Non ricordo, sì. Ah, nei punti. All'incrocio per San Giorgio. Di fronte a cosa? Quello degli autori campi. Di fronte a quello degli autori campi. Un uomo di 89 anni ha tagliato la strada con una Lancia Y. Stava arrivando uno da Sassari per Porto Torre e se l'ha pigliato in pieno. Sì, guarda, io sono amante della moto. Sono amante della moto, cazzo, solo che gli ultimi eventi non sono stati molto proficaci per me, quindi l'ho mollata, ma molte volte devi stare, anzi molte volte, la maggior parte delle volte devi stare attento agli altri che a te stesso, per carità, me l'hanno buttato così, poi mi hanno chiuso la strada in via Giovanni Pascoli, ma questo ti parlo nel 2005, ed è lì che dal 2005 sono stato 2 mesi senza fare niente perché non riuscivo a muovere, perché ho avuto una praticamente il codone della moto mi ha, come ho pensato, mi è andato forte alla schiena, quindi ero mezzo fermo. Meno male che insomma sono massiccio, perché se avessi trovato un altro, credimi, claro, e tu già lo sai, siamo usciti anche assieme quando avevo quel CBR, se fosse stato un altro magrolino l'avrebbe troncato in due, per come mi ha scaraventato la moto, per non fare un frontale dietro. e mi ha lasciato un ematoma allucinante nella schiena, ma non riuscivo a muovere poi perché effettivamente mi ha fatto male male. Sono stato 2 mesi a casa ed è lì che ho preso i miei 20 kg. Come vedi? Allora facciamo acqua, siccome ho la moto anche pesante, non te la bocci fuori ai paddi, domani mi porto un manico di picco che è bello grosso e dirò culo ai paddi, uscirà nei cheggi. No, grazie, che se mi fai male ingrasso, perché effettivamente non facevo niente a casa, no? Quindi facevo colazione e pranzo e cena, questo per 2 mesi senza muovermi, senza spostare neanche la furia, ed è lì che insomma ho incrementato. Parte di scherzi, la moto bisogna andare di lì, tu lo sai quanti anni ho la moto, noi ci siamo conosciuti quando tu avevi la 127 che io avevo la moto, e avevo il VFR 750 bianco, se ben ti ricordi, stiamo parlando, eravamo ragazzi, quindi io poi ho mollato, riprendevo, mollavo, però anche a me la moto piace tantissimo. Io quando ho comprato l'Hornet, sono uscito una domenica mattina con Franco in California, proprio in via Pascoli, io sono partito, sai, ti viene l'istinto, la moto l'hai avuta, ho aperto prima e seconda, all'incrocio dove c'era il fornitore, no? Che c'è sempre stato per il fornitore, dici da una macchina senza baida, senza niente, lì mi sono visto la moto in faccia. Fortunatamente ho rallentato, ho leggermente, praticamente dato 2 colpi, c'è la sabbia, mi ammazzavo, ho dato 2 colpi col freno davanti, la moto ha, diciamo, quasi inchiolato, era corsa pura, però automaticamente ci avevo anche quello, il freno di dietro, calcato, quindi la moto ha strisciato, sai come fa la moto, cazzo, guarda, mi sono visto la moto in faccia. Ho venduto l'Hornet, l'ho venduto e sono tornato al D-Max. Col D-Max la stessa cosa, uguale, sempre con Franco, in via Tempio, prendiamo il caffè al Trisbar, ce ne andiamo, facciamo all'angolo del via Tempio, ne è uscita una macchina senza guardare, da via Marsiglia, la Giubileo è in pieno. Fortunatamente stavo andando piano. Quindi prima tutte stronzate che non mi sono mai fatto niente, però bisogna stare attenti agli altri. Io ce l'ho la moto ancora, ce l'ho la piccola e la grande, uso più la piccolina in città che quella grande, perché con la grande ti puoi fare più male di quella piccola. Sì, diciamo di sì, però insomma è da fare nel punto della situazione, dipende, perché anche con il Silverwing 400 che avevo, ho fatto una scivolata e diciamo che non hanno la stessa frenata, quindi ci è uscita è paratura. Vabbè, però come sono scivolato io, essendo in curva, praticamente la moto è andata da una parte e sono andato dall'altra, fortunatamente non stavano passando macchine, perché sennò mi viene gazzigato, e anche lì ho avuto la fortuna di poterlo raccontare e quant'altro, ma io incidenti mortali forse ne ho avuto, credo, 2 o 3, fidimi, perché ho avuto anche il 127 che c'era un montante dove ero sotto io e l'ha schiacciato nel sedile dove ero io. Io non so come ho fatto a uscirne senza un graccio, grazie a Dio lo posso raccontare, questo nel lontano 1989, quando facevo Sassari Palau per rovettare, ho avuto un brutto incidente lì, e grazie a Dio lo posso raccontare. Io sempre possiamo raccontare, però c'è chi va bene e chi va male. Tu immagini questo ragazzo che di vista, 46 anni di vista, non è di Protose, ma tanti anni che abita a Protose, se io di vista ho visto la foto, lo conoscevo. Un ragazzo che ha sempre avuto la moto, un enduro, un Suzuki Enduro 750. Non penso fosse spericolato, purtroppo lui secondo me è partito dal semaforo di punti e ha aperto, non ha fatto altro che vedere la macchina all'ultimo momento che gli ha tagliato la strada per girare a San Giorgio, infatti l'ha presa sul lato destro, non ve lo dava lì, ha 89 anni quest'uomo, gli hanno fatto omicidio stradale, cosa va in galera, boh, ha 89 anni, vanno a vedere i domiciliari, però intanto è morto ragazzo di 46 anni. Ma è che, perché quello malattiano, non si può. Io sono del parere che guarda, io mio socio, no, aspetta, sta facendo le sigarette, guarda, per non fumare molto, ma cazzo bene, nel gannone, nel cose, non riesce manco a tirare, a mio socio, la macchina nuova, aveva la Peugeot 605, che era la medaglia della Peugeot, nuova, bellissima, aveva 70, 78 anni, mi fa 76, 78, entrando al cancello, seduto al cancello, dice io ho aperto il, pensavo il cancello stesse camminando per aprire, ad uscire, e se stava passando un bambino, lo mettevi sotto ad ammazzarsi. Un sabato manzano mi ha detto, devo rinnovare la patente a mia compagna all'autoscuola lunedì. Ho detto sì, e dove la patente, Pie? Cioè la voluto a mio socio. E in a chiesa, sa c'è anche il pesce, i due. E io ho detto aspetta il controllo per quando scade. Ho preso la patente e gliel'ho tagliata a pezzi gliel'ho fatta. Due volte gli si a ragionare. Chiama Tony, chiama Tony, tu chiama Tony che non c'è un problema, è venuto il figlio, cosa è successo? Ha fatto bene, ha fatto bene Claudio, ha fatto benissimo, ma tu non sei più in grado di guidare, perché una cosa del genere non la puoi fare. Il cancello era, no, il cancello era chiuso, poi schiacciato il telecomando e si è partito, ha fatto pure il telecomando cammini, non aspetti che il cancello si apre, non mi ha guidato più macchina. Purtroppo, io mi ricordo quando c'era il nonno, non mi ricordo quanti anni aveva, per carità, però sai, io ero ragazzo, ma quando ce l'avevo, se avevamo l'R4, se mette di curva, la marrone, no, l'R6, scusa, l'R6, e lo sentivo spuntando, forse no, devi mollare appena più la pressione, sempre va a guidare, ma va più ricchio. Fatto dire che avevo imparato con quella macchina a guidare. Sì, quella macchina ci ha salvato un sacco di volte. Non consumava niente, andava dove volevo via. Io pensavo, me la vedi nel 127, la questa di Massa si abbiamo una guida che era sempre un pieno. Ti ricordo un giorno che avevamo forse 10.000 lire in due, con il mio. E mi fa io compà, ce ne va sentino. Ce ne va sentino, compà. Benzina, vabbè. E vabbè, dai, mettiamo la benzina, va bene. Mettiamo la benzina. Scendiamo lì e avevamo una manciata di gettoni dalla giostra. Ci avevamo vinto lì a sentino che c'era la giostra, no? Ma siamo scesi così. Ah, faccio un giro e basta, proviamo a essere due amiche nostre. No, vabbè, dai, andiamo al bar, ho detto compa meno nuovo di anni. E vabbè, già lo mangio io, ci sediamo a tavolino. Cosa prendi? E gli faccio io, lo faccio il culo. Ah, no, per caffè, mi guarda, quel piede di caffè sei. Sai che non è su di caffè, ti ordini pure. Vabbè, caffè anche io, Guarda la favola, è andato a cammino a pagare. E conoscevo il padrone, no, perché sono di Sentino, metto scuola, su di noi no. Però ho lanciato dei gettoni. Ma lo ricordo, cioè, ma quello non è il giorno che siamo arrivati a piedi, che sono venuto io, no, quello è il giorno che siete andati da soli. Eravamo andati quella, altro non è finito, vabbè facciamo un affare, un pezzettito così trattata, e rientriamo, e arrivo all'incrocio dove abitava Italo, tutta Maluga, no? E mi fermo, e mi guarda la figlia, e mi dice, beh, non accompagno, no, aspetta, le cose sono due, avevamo 10 euro, abbiamo messo la benzina, se accompagno a te, io domani rimango a secco e non posso andare a lavorare, se invece giro a questa parte qua, che a te ti lascio a piedi, e tu io domani vado a lavorare, e arrivo a casa se ne vado a lavorare, ho capito, cazzo, mi devo lasciare a piedi, cazzo, l'ho mollato lì. Dopo un po' ci sentiamo in radio. Ah, una ragazza tua. Mi ha mollato a piedi, ho trovato uno con le case in terra che mi stava chiedendo un passaggio. Cazzo, ma non è che sono a piedi anch'io. Come cammina da gomito, cazzo. Per carità, sono combinato, cesso, mamma mia, guarda la volta che mi rifermo, che sono fatte una di notte, io a casa, mi rifermo a baraia lontano, e a volte, cazzo, ma dove c'è che vai a volte? Scendi e porta un bironcino di benzina che siamo fermi a baraia, la mazza che te ne varia. E non mi ricordo, forse avevo la 1 grigia, ti ricordo? Avevo la 1 grigia, però c'era qualcosa che non andava, e quindi l'ho sceso in moto. Abbiamo messo la benzina e siamo andati a Fintino. belle cose da raccontare, ma vabbè. Io non so se uno si gioca un'altra cosa, la batteria. Come fai poi? No, ma era un gioco, allora la bella ci divertivamo, infatti era giura, giù tu boh, perché io sto qua a Olella, al baracchino, avevamo sul 20, sul 20 diciamo, sul 21, e ha detto, il tuo fratello è rimasto a piedi, di nuovo, ha detto, io ci viene a farmi comprare, portiamo la benzina, ci sono laggiù la bagu uscì, e ho sceso infatti con Olella, e poi da lì, Pido Dota, vabbè, a casa c'è Antonio, e poi io non ho di notte, non ho di andare a travagliare io. Ah, io andiamo a Tentino, eravamo andati a Tentino. Per carità, che tempi, vabbè. Siamo sai, ci siamo divertiti un bel. E conta che noi ci conosciamo 40 anni, eravamo ragazzini, e appena fidanzato con Maria, dovevamo lì al Trenino, che? Allora. Vabbè, è così. No, vabbè, ma poi cioè fare una moto se devo andare a lavorare, tanto io molte volte quando ero fidanzato, figurati, facevo rientrando a forse alle 5 del mattino e alle 8 essere già operativo. E io lo stesso non lavoro come fiere. Quando andavo in cantiere, venisse a Bonteggi d'Amine, che mi davano i disegni e dei miei. A trovare il Cesare dice non avete fatto niente stamattina, signor Cesare, guardi, l'anima poverina è morta, dico la verità, mi fate Gini Antonio, stanno già iniziando a tracciare, a fare, a montare le piantane, però io ho un mal di testa, Runi era la matta scrittoria, sempre ma finisce, ma fatti controllare, ma perché c'è sempre mal di testa, come dice a Roma, signor Cesare, ma perché mal di testa, ma cosa ne so, ogni volta, non lo so, eppure non faccio niente, domenica sempre a casa, sì, ne embriaghiera. Allora, va bene. Antonello, la pizza te l'hai mangiata? La pizza, la mortale dal cane ne l'ha mangiata. Ma non c'era anche Luca? Sì, Luca sta controllando il PC. Il PC o il PC stai controllando in algherese, Luca? C'era dormito mentre la zia la mamma di cose, di Gianni di Nuova Sole. Cazzo parlava e si intendeva sulla gang e come crop. Sicuramente. Però in quel periodo era rottino. Si contavano le mazzette, bellissimo di algare. Due soldi giravano, lire, con 100.000 lire, tutta la settimana stavo in giostra, fa lavare con 50 euro, esci non hai più. Esci a vedere che mi ha mandato una cosa a Vanni, ma non riesco a visualizzarla, ho detto, aspetta un attimino qua. Beh, Vanni mi ha provato... Mi ha trovato una di quelle precise con la ghetto, però adesso mi dovrebbe... Quando l'ho mandato? La faccia, non ho visto. Quella che ha la faccia sotto. Però bisogna vedere quanto ne vuole. Adesso se mi risponde ti faccio sapere. Quello lì... allora, quello con la faccia sotto, il Cobra, e poi... lo fa anche il Galaxy, Galaxy l'ha fatto in un'altra versione, però non Cobra, un'altra versione che aveva Sandro, il portatore, c'era una bestia molto bella con la radio Mati, lì non so quanto sono curioso di sapere quanto si può pagare una cosa del genere, perché se tu guardi il Cobra, quello che c'ho io, avevo fatto 450 euro ancora. Infatti mi ha mandato, guarda il posto sulla pagina di Facebook, 400 euro, ma va. Sbagliato mi sono, perché sono lì, c'è la versione Cobra, poi un'altra versione che è simile a quella, da 100 watt e 200 SSB, ma non lo paghi meno di 400 euro. Ho visto proprio l'altra volta a Talanovella con Massimiliano, quello che abbiamo noi valutato 450 euro, quindi 400-450 euro. No. 400 euro messi con HF, ma buffonendici, no. Torniamo al discorso che abbiamo già fatto, non si possono buttare via i soldi così. Stiamo parlando sempre di un baracchino. Baracchino, bello comprare baracchini vintage perché sono belli come io, come tu, che ne avevo un mare, li ho tutti distribuiti. A Roberto Quadrato, ne ha capi due, ne ho venduto, ma va bene, gli ho dato anche a Walter un paio, uno l'ho dato a Marco, di noi che c'è Marco, quello che l'ho dato io, il 23 canali, capito? Che c'è anche Walter, quello col cassone in ferro celeste, nuovo, quello gli ho dato io, ne avevo tantissimi, però vai a spendere 2 lire, ma ti pare che io la GPNI fa un baracchino 400 euro, no, è stato bello sognare. Infatti, mi sembra un po' troppo infatti, ma sicuramente il prezzo è legato al fatto che non si trova facilmente, era scritto bella ma troppo per me. lo so, no. Vabbè, cosa vuoi farci? No, ma io sinceramente non lo spenderei mai quella cifra lì, non è da buttare, figurati. Ho altre aspirazioni, se tutto va bene devo aspettare ancora un po', però ho altre idee per la testa. Ottimo, fai bene assolutamente, ripeto, io li prendevo queste cose perché era talmente la come ti si dice, Lumacchini, va più in capo che altro. Però basta, è stato bello, finito il discorso, anche perché poi ti stufi, vai a vendere, non te lo compare già nessuno, ma è troppo, ma è qui, ma è là, quindi inizi a togliere quattrini e ci rimetti. No, io ne ho comprato uno, vedi, il Superstar 3009, proprio Superstar 3009, che è uguale al 3006, nero, Colt, pagato 350 euro, venduto 250 euro, perso 100 euro. Vabbè, ma dico 100, 120, massimo anche 150 uno. Ce li può anche, tra virgolette, buttare, perché effettivamente è una cosa che ti piace, vabbè la compro, ma non è che le può spendere, ecco, tra virgolette, le può spendere. Però quando tu inizi a dirmi, cazzo, 250, 300, 400 euro, ma insomma, ormai 400 euro, chi è che l'ha proposto? A proposito, un 440, o un 680, insomma, no, un 440, 300 euro, nuovo, chi lo vuole, fammelo sapere e poi ti metto in contatto. Ultimo prezzo rispetto a quello che abbiamo detto l'altro giorno che se lo tiene. Ottimo prezzo, tieni conto che io con un difettuccio da niente praticamente, che se lo dava Fabrizio lo metteva subito a posto, mi hanno dato uno da vendere, quando mi ha detto 200 euro, me lo stavo prendendo io, ho detto ma cosa me ne vuoi, io viaggio, l'ho venduto subito, ho fatto 2 telefonate, l'ho venduto subito, non a Sassari, 200 euro, dice praticamente cosa c'è la tua radio, perfetta in tutto, quando vai a accenderla, parte dai 20 metri, 14.000, ok? Quindi niente, e poi uno è 27 la vuole usare, se ne va a 27, non è come la nostra, no? Io lascio sul 10, rimane sul, no, quella tu la spegnevi, e l'indomani, non subito, per dire sì, adesso la stavo usando a 27.075, la spengo, no? L'accendo fra un paio d'ore, 3-4 ore, rimaneva sempre lì. Passata quel tempo, quindi all'indomani, se la accendevi e la trovavi a 14.000, ecco il momento di effetto che aveva. Ma perfetta, nuova, in tutto, potenza, ricezione, trasmissione, accordo a cuore, tutto. Venduta 200 euro, il proprietario voleva 200 euro, io 200 euro venduta. Sì, ma ha detto proprio farmi stamattina, che lo sta vendendo, 300 euro, infatti ho detto, ma tu pensa che a Sassa erano fritti maggiorati? Sì, sarà nuovo, sarà quello che vuoi, poi ti ripeto, forse ti avevo già detto qualche cosa del simile, ognuno fa il suo prezzo, poi aspetta chi compra fa la valutazione. Ma infatti, si conferma, proprio così. È proprio così, non è roba mia, stavo un po' tentennando, è stata la volta che mi ha detto no, non prendo più a carezza, quella. Poi ho fatto un'altra telefonata qua a Sassari, no, ho fatto un'altra telefonata e si siamo buttati a Olbia, capito? Però la radio nuova, perfetta, l'ho testata e ho provata, l'unico infatti lui mi ha detto guarda, sto andando così perché c'è questo difetto, prova, io non so come mettere le mani, non so niente, quello vuoi, pronti, io te la vendo, hai venduto a 200 euro, con proprio chi c'era davanti a me, testimone, presi i soldi, chiamato, poi viene a prendere i soldi apposta. Io l'intermediario lo faccio, però se tu mi dici 100, vendo 100, se mi dici 200, vendo 200. Non sono di quelli che fanno 220, 230, per farvi lo sgobbo, usami una frutta a me, ma non sono lì a stare a girarmi le balle, mi interessa assai a me. Capito? Perciò 300 euro sei a posto, è una bella cosa. Dare questo non mi interessa, sinceramente, sono, ma poi averne due, che ha più di senso. Giustamente è tutto allineato, tutto preciso, perfetto, te l'ha fatto non so chi, però già lo sa dove si serve lui, quindi immagino che tu lo sappia. Un attimo va che sto scrivendo un messaggio. Sì, anch'io, aspetta. Mi devo allontanare, dai, che devo fare il latte al bambino. Sentiamo dopo se coincide, se ci sia ancora. Cosa ti? Che mi devo allontanare, devo fare il latte a Nicolas. Adesso ci sentiamo se coincide più tardi, dai. Io adesso sono già le 10, adesso vediamo. Lascia acceso, se no ci aggiorniamo domani telefonicamente, ok? Va bene, d'accordo, ciao. Ciao a te, a domani, saluto a casa, vai.